quasi convinto, mi so voi. Ah, Parigi mi chiama. Ho capito. E dove sei, dove sei? Andando a Trabacco. Devi andare. Purtroppo devi andare. Cosa ci vuoi fare? È giusto così. Quando toccava a me ci andavo anche io. E quante volte sono andato io senza averne voglia. Eppure ci sono andato. Non ho capito la tua categoria. E quindi qual è la legge Fornero? 65 è quella normale. A 60 anni se hai 42 anni di contributi. E se non ce li hai andi a 67. No, no, noi ci... ci sono dei lavori usuranti che hanno messo in considerazione, in gioco. Ancora stanno verificando, capito? E quindi molto probabilmente chi ha superato i 35 anni di contributi con il lavoro usurante dovrà uno scivolo, una maggiorazione, può andare, capito? Però per il resto è noia, sempre a 65 anni era andato, a meno che non hai 42 anni di contributi, allora puoi andare a 60 anni, capito? Anche con la legge quella APE, anticipo prepensionamento, anche lì ci vogliono 60 anni, nonostante ti anticipano i 2 anni o i 3 anni di contributi, però devi avere sempre 60 anni. Quella è la curiosità. Io sono stato curioso e ce l'ho fatta, capito? Perché pensavo di aver iniziato più tardi. So che non ero maggiorenne, ma che avevo 16 anni, non me lo ricordavo, la verità. Quindi 2 anni me li hanno dati, però sempre a 60 anni prendo la pensione io, capito? Quindi ho 58, devo aspettare 2 anni. Però 2 anni mi rivolto mentre di Ghio, non mentre di Zinietti. I soldi sì, però la percepisco lo stesso, perché me li danno come anticipo aziendale per 2 anni, capito? Quindi è una bella cosa che sono riuscito a fare, non ti preoccupare. Fra 2 anni mi paga l'INPS, per il momento mi paga l'azienda per 2 anni. Un prepensionamento aziendale ho fatto, capito? Va bene lo stesso, va benissimo alla grande. Va benissimo alla grande, poi fra 2 anni si vedrà, magari se qui a morso non mi tocca nemmeno di missione, perché non ho i 60 anni, capito? Non sono arrivato a 60 anni, quindi è per quello, se no l'avrei già presa. 2 anni di scivolo me li paga l'azienda con eccetera eccetera. Vabbè, dove sei? Ah, ho capito. Va bene. Sì, già ho capito, sì, non c'è problema. Ehi, 5, 7, 5, dipende, dai, come ti muovi. Molto QSB. Il movimento dello smitter. E mai fatto. Se sei in movimento è quello, capito. Non è un problema. Non è stabile il segnale. La radio è buonissima, la grande. E vabbè, sei di fronte a me, quindi non è che ci siano molte difficoltà da parte mia, dai. E in mezzo sì, Kiwi. In mezzo sì, oggi mangio arrivo lo stesso, non ti preoccupare, già va bene. Vabbè, tieni duro, dai, ci sentiamo dopo se coincide che me devo spostare da qua. Ok, ciao. Ciao. Allora, circa canale 10. Oggi vai. Buongiorno, anzi buonasera, Alessa. Controlla, vede, che occupo piazzato quarantena che ho costruito, la Game Master. Così che è piazzato? Ho messo nella finestra questa antenna che ho costruito, la canna da pesca, a vedere se va meglio. Sì, 9.5 sì. Quindi ha migliorato? Liscio sì. Sì, liscio. Sono 15. Molto meglio di prima. Mi tocca su una staffa di ferro riguarda di su, è attaccata proprio la staffa, però sporge dal tetto di un palmo, due palmi, boh. Diciamo adesso la sto provando qua, dai. Vedi, se riuscivi a farla sporgere di più, almeno un metro, sono convinto che recuperi. più che quella radia verticalmente, quindi più spazio ha e meglio va. No, accordata, con l'accordatore, vabbè, non so senza accordatore come vada. Però non mi sono spostato molto dal centro là, per accordarla. Ho fatto quelle misure lì, che ho letto, ed l'ho messa in corto, perché c'è scritto di metterla in corto. Sì, 9-5, sì, ti aspetta, è Santiago 8, 9-5, ascolta, e puoi agganciare a vedere quanto sale. Non ci bisogna avere scaldi, no, il transistor, vero? No, assolutamente. Però sai 9.15 sei mi fa 9.12 9.13 missioni a geniare che soltanto che non riuscivo a accordare, come mai? Quello che era attaccato, guarda che lì c'è scritto non c'è bisogno neanche di accordarlo quel lineare, però io c'avevo l'accordatore. Vabbè, perché quanto salivano le stazionali? Stava arrivando già, siamo oltre il 2. Ma senza accordatore? No, provano a accordare ma non scendevano. Oh, già scendono, ma manuale? L'accordatore sì. Già scendono, piano piano, già scendono. Prova. Già scendono, abbassa la potenza però. Era 1, era, alla prima attacca. Quanti watt lo stai dando l'ingresso? Per accordare meglio va. Adesso erano una quindicina. Modulati anche 20, dai, 18, 20. Provo a abbassare la potenza all'ingresso e poi attacca e accorda di nuovo. Ma non è regolabile questa la potenza. L'ho tarata solo così così, come si dice? Col cacciavite, però bisogna sempre aprirla allora. No, lascialo fare così. Ma prova già accorda, riprova, piano piano. Prima uno, poi l'altro, prima uno, poi l'altro. Prova prima il tunnel, capito? Prova prima il tunnel, poi il load, piano piano. No. fai raccordare. Hai sbagliato qualcosa, Fra. Non sei in accordo giusto. O è troppo lunga. Devi vedere un po'. Oppure tutta la ferraglia che c'ha in mezzo, quelle staffe in ferro che ritrova a metà antenna. Non lo so, perché il segnale è aumentato un bel. Ma Santiago, sì, 9,5 abbondante, poi con l'attacco va a 9,12, 9,13. Poi il fatto che è stazionarie, lì è un casino, devi rivedere un po'. Bisogna portarla in aperta campagna e tararla all'aperto, dai. Ma le misure le hai rispettate? A grandi linee, poi no, al millimetro non ce la fai. Lì è il problema. Per cui vita a succedere quando. Anche quando non attacchi, 2,5 sono tante. Può andare bene una 3, una 4, è ottimo, va bene. Però così senza niente 2,5 sono troppe fra. Adesso prova a cambiare banda, a scendere o a salire, vediamo se aumentano o scendono. Ecco, prova lì, così ti raccogli se vuole abbassata, se vuole ritoccata l'antenna o il capo, vedi un po'. Risposto, poi ritorno qua, dai. Vai, fai, sono qua io. Ci sei? Via. Allora, nei canali alti si allenano, giù scendono, quindi bisogna accorciarla così. Nei canali alti si abbassano le stazionali o salgono ancora? No, no, scendono a uno. E nei canali bassi? Tendono a salire. Troppo lunga, Troppo lunga, fra. Dovresti, o giochi col cavo, oppure devi accorciarlo appena appena. Sì, sì, il cavo è stato solo piegato, diciamo, a anello, e l'ho fatto riscendere per un pezzettino. L'ho fatta leggermente più lunga proprio per tararla. Ah, gli hai fatto un simmetrizzatore, togli lo simmetrizzatore, fra. Ora se sia quello che sta creando problemi. Aspetta, intanto che attacco al quadratore, aspetta. Togli lo simmetrizzatore, fra. Il simmetrizzatore si mette quando le antenne sono sul tetto, ma così in balcone pure non serve a niente, però se sia quello che sta creando problemi, prova a mettere il cavo normale senza simmetrizzatore. Così non ne ho. No, l'antenna, diciamo l'ultimo pezzo è un cavetto in rame, un cavo da 2,5, capito? Non hai girato, non hai fatto un cerchio al cavo di discesa? No, quello non l'ho fatto. Perché mi sa che qualcuno dice anche di fare un paio di giri alla base. Sì, qualcuno, quello simmetrizzatore. In caso di stazionari simmetrizza un po' la taratura dell'antenna. Prova a farglielo. Un giro, uno, e farli quasi due giri. Compatti, ben tesi. E da quanto di diametro? E il diametro fra un po' più grande del bicchiere, ma cos'è il genere? Provo, dai, fermo con un del naso, perché cavo qua ne ho poco, non ne ho molto, perché ho messo presso uno spezzone per provarlo. E vabbè, intanto lo puoi provare a vedere se le stazionali abbassano così, prova, in modo che abbia già un riferimento. E sai che l'antenna va accorciata. Sì, oppure devo. Cioè la porto giù di nuovo e accorcio l'ultimo pezzo, là diciamo il terminale in cavetto. Dato è tutto fatto tutta nastro vulcanizzante, un attimo accorciarla, capito? Sicuramente è più lunga del normale, ma l'ho fatta di proposito qualche centimetro in più per poi riuscire a tararla. Esatto, là quello devi fare. Pezzettino per volta però, capito, vai a millimetri. Piano piano e provi, prima di vulcanizzarla, di chiuderla del tutto. Così ti accorgi, la fai perfetta, capito? Quando attacchi lineare hai la massima resa, se no è troppo di stazionare fra due. Sì, sì, è troppo, troppo. Finché sono così liscio non ho problemi, perché riesco a portarle con poca regolazione, nel posto poco a zero, 1,1, neanche si muove l'ago. Vabbè, però poi con attacchi lineare ti sfasa, perché aumenta l'impedenza e quindi ti frega. Ci vorrebbero strumenti a vedere come sta lavorando l'antenna, per vedere il range dove sta lavorando bene. Esatto, però è aumentato parecchio. È aumentato parecchio. Vediamo quanto ti arriva Gianni, se arrivi bene a Gianni, qua sei aumentato un bel. Vai già. Ehi, buonasera a tutti. Passiamo fortunato. Magari sono un po' sfortunato, un po' sfigato. No, Franco, sono. Ti sento un po' di alternata però. Diverso da solito, come mai? Io ho alternata. Confermi, Cla. Un pelino, corteggiando, grazie già. Via. Prova forse a vedere quanta linea. Tu ne arrivi, forse 9:20. Aspetta, vabbè, il 20 non c'era, ma avevo che croce, là. Non so se 9:25, più o meno è quello il segnale. Sarebbe il troppo. Che è? Cazzo mollato, Dato, ma non è che Veorbia riesce a tornare allagato? Mi ha detto il scopo. Ah, non è che Veorbia riesce a tornare allagato e te ne sei fuggito a Sassero. E andai poco il scopo. E beh, Stefano. Buonasera a tutti, ben ascoltati, buonasera. No, non ce n'era talluvione a Olbiano, tutto a posto. Ciao Stefanini. Io ho sentito io l'altro giorno, mentre ancora non è rientrato, ho fatto il tuo, già lo chiamo allora, invece hai fatto prima tu. Quando sei arrivato? Oh, ero già qualche giorno qui, sono andato via anche ieri, sono tornato poco fa. Chi c'è? Non lo so, già ne ho più tu poi. Certo ci sono, ciao Stefanino. Natalino c'è, Franco. Ciao Natalino, buonasera a te, ciao. Ciao, sì. Ciao Stefano, ciao anche a Natalino, ben entrato. Ciao anche a te. Natalino, saluta con Gettuzza da parte mia. Natalino sta svegliando. Sì, fra, comunque vai benissimo, alla grande. Miglioramento c'è stato da un'antenna all'altra, adesso devi cercare di tararla bene per far sì che esci, insomma, come lo stazionario, dai, tutto qua. Avanti Gianni. Perché quando ho ridato mi ha attaccato? Ehi, va due di stazionari. No, troppo. E con quanti watt? Con 15 watt d'ingresso, non lo so con quanti watt. Quando attacchi lineare, se tu stazionari, ricordati Gianni, che se tu stazionari non ne hai senza lineare, non le devi avere neanche con lineare, questa mania che si sente, quando attacco lineare mi salgono a, non deve succedere, se c'hai 1-1 senza lineare, con lineare deve essere 1-1, punto e basta, se l'impianto è a posto, se l'impianto non è a posto, che c'è qualche perdita di stazionare tengono a salire, se c'è qualche spettrone fuori accordo, se c'è qualche disaccordo tra antenne e lineare, allora quella è un'altra cosa, ma io ho 1-1 di stazionari con 10 watt, metto a 100 watt, sempre 1-1 ciò, non si muovono, vai fra. Sì, vai beato te, vabbè, tu c'hai antenne serie, questa è un ammasso di casi. Un'altra cosa, qui giri, ma non fate una distanza particolare dall'antenna oppure li posso fare anche dentro? 20 cm dal PL a scendere, adesso la scimmetria è largo quanto è il fondo di una bottiglia, due giri, e glieli fascetti e glieli nastri, per provare ti conviene nastrarglieli. Se vedi che la stazione scendono, quindi il simmetrizzatore agisce, l'antenna devi accorciare. Vai cazzo, dai, ti provo, se busco un po' di cavo, dai. Ma che cavo è 58? Sì, questo qua è 58. Ah, ma è cavo vero, vabbè, prova così, fra, ma giusto per provare, ma in ogni caso se ti salgono così tanto vuol dire che l'antenna è troppo lunga, se hai fatto già la prova... nei canali alti scendono le stazionali, nei canali bassi aumenta, devi accorciare fra, prova a vedere un po' così, se il simmetrizzatore agisce vuol dire che devi accorciare un po' l'antenna, va bene, avanti Natalino. Un attimo, stai facendo cosa, chi è che chiama Franco? No, Valerio De Alghero, sì, perché senti a Franco il tuo Alghero. Ma se non ti sente, fra, lo senti a Valerio, aspetta che è andato a correggere il cavo dell'antenna. Stefano, allora, finito? E a fin ferie sei, ah? E poi ti ho buttito un po', Hugo. Ehi, di ferie vi trovo adesso. Va bene così? Tu sei andato in ferie e sono andato in pensione. Ah, vero? Ti ho detto che sì, 2 anni prima. E vabbè. Quando vogliamo organizzare qualcosa? Quanto rimane a Sassari? Vediamo, ce la facciamo a fine settimana o all'altra. Cazzo, la febbre mi prende a me. Guarda, odio il naso che mi gira. faccio le balle, una cosa allucinante. Sì, anche a me mi fa bugia, perché per il freddo ieri a Olbia c'era un vento, un freddo e pioggia mi ha fulminato, secondo me, perché mi sento i dolori e le cose, il sintomo lo sento. Oh, per me va bene anche la settimana prossima, questa settimana no, sono molto impegnato e non ho tempo. E la prossima settimana ci organizziamo, dai. Ci organizziamo la prossima settimana, adesso che si rientra la facciamo, Gianni. Aspetta un attimo, mi ha chiesto anche Roberto Meccanico che lui verrebbe con noi, perché l'ho visto ieri e quindi mi ha detto che quando noi organizziamo si avviserà anche lui che viene. Quel porco fu tutto, e l'altro giorno sono passato, diciamo che con la macchina è da non dare uno sguardo. Bene, vuol dire avviseremo anche a lui, ce l'ho il numero. E io vabbè, lo avvisiamo e poi facciamo una bella graffetta, vai. A te Gianni doppio russo. Ehi, ehi, no, stavo pensando quello che ha detto Claudio, che quando attacchi non devono passare le stazionali, andiamo a mettere, aumenta da 1 a 1,2, 1,3. Ma è normale che aumenti, lasciamo mettere in parte Claudio, scusa. No, vedrai dunque che aumentano i watt, Gianni, quella è la perdita che c'è del cavo. Tu prova ad usare un cavo buono, un cavo a bassa perdita, non deve succedere, non deve succedere. Io ti vieni qua, vieni qua, ti attacco un kilowatt, 1,1 c'ho, 1,1 rimane, no, non ce n'è di queste, così deve essere, è così, non devono aumentare le stazionali quando aumentate la potenza, perché vuol dire che c'è qualche perdita da qualche parte, o uno spezzone di cavo che non è appunto, c'è perdita, c'è qualcosa che non va, qualche fesseria, però c'è, in questo caso Franco è l'antenna perché è un'auto costruita, quindi la sta tarando e va ancora tarata, ma quando parliamo di Mantova 1, di Mantova 5, di antenne verticali come le nostre, io ho 1,1, ecco qua, 1,1, ok, mi metto gli occhiali, se vuoi ti faccio il filmato, 1,1, sono a 10 watt, 100 watt, 1,1, non si muove, mi metto a 10 watt, sempre 1,1. Cioè, se c'è un disaccordo tra antenna lineare, gli spezzoni, il cavo leggermente più lungo, lo spezzone che va da lineare, che non è... Tutti questi accorgimenti, tutte queste cose vanno fatte a regola d'arte. E le stazionarie devono essere quelle, non devono aumentare, non c'è niente da fare. Questo è quello che io ho sempre avuto, sempre, sempre, sempre. Sto parlando da solo? No, perché non risponde nessuno, così è già, così è, quello del cavo, l'RG58 che c'ha molta perdita, quindi quando dai potenza, quanto ne dai? 80 watt in antenna, ne hai 40, perdita 1000, perché quando si usano gli amplificatori o alta potenza ci vogliono cavi seri, ok, gli spettroni devono essere tutti uguali, tutti, non è che io posso mettere un RG58 dal perché non c'ho posto, da lineare al baracchino, qui c'ho il cavo di discesa 213, l'altro spettrone metto un 59, metto, no, tutto uguale deve essere, tutto uguale, tarato perfettamente, e tu vedrai che come ti dico io, a me problemi non me ne crea, con 10 watt c'ho 1 rapporto a 1, quindi 0, con 100 watt c'ho 1 rapporto a 1, con 1 kilowatt c'ho 1 rapporto a 1, sempre quelle sono le stazionali. E a poco di cavi? No, cavi in aggiungo giuro io. Claudio, adesso con qualcosa attaccata è 1,2. Sì, 9,15, 9,15, 1,2, hai visto? L'hai accorciata? No, ho fatto quei giri. Tutto così era il cimentizzatore, adesso sta agendo, la carbussina. Allora, e vai troioso, va. Allora, se hai fatto il simmetrizzatore come ti ho detto io, è salito anche di segnale, quindi simmetrizzando il cavo, praticamente hai fatto sì che l'antenna lavori leggermente più bassa e quindi hai risolto il problema. Però se vuoi eliminare il simmetrizzatore devi accorciare leggermente l'antenna. Poi piano piano poi si tara, dai. Ok, in questo caso per fare in fretta quando uno sta facendo queste cose basta che simmetrizzi e che chiaramente le stazionarie ti scendono. Ok. Se non vuoi. Ehi, sono qua. Ah no, aspetta. Okay. Senta lì. Oh, dimmi. Beh, tu, montata vai. No, non l'ho finita ancora, poi non mi sento bene. Quando fa tempo bello, ho già tutto fatto, mi lavoro solo un filare nella canna da pesca. E io lo metto all'esterno, no, dentro no, non l'ho infilata. Oh, fra. Dimmi. Quanto è sceso quindi facendo simmetria trattore? Avevi due? Era oltre due, due e mezzo. E sei sceso a uno? Uno e due, uno e tre. Devi accorciare almeno di un 3-4 mm con l'antenna. Intanto l'accorcio c'è facendo la piega e basta, giusto? Non c'è bisogno di tagliarlo il cavetto. Fai la piega, quello che conta è la piega. Esatto. Sai, ok, come un dipolo, anzi è un dipolo questa. Esatto, esatto. Lo giri e accorci di 3-4 mm e poi chiudi. Sì, sì, adesso come... ho un po' di tempo di giorno, dai. Perché vuole scendere di nuovo perché è altissima, va, è una cosa impressionante. E io perché cazzo, ma hai cambiato oggi una notte, sembri con l'antenna sul tetto sembri, E di Santiago Otto sei 9 più 15. E adesso poi aspetta che abbasso, dai. Minchia. Va bene, va bene. Avanti, Stefano, riprendi. Eia, eia. Vabbè, sto facendo un po' di cose qua. Quindi anche io devo stare sul tetto a vedere che succede in questa antenna qui, io ho la cornuta, ma sto zero di stazionare, quindi devo vedere, magari mi metto un baracchino domani, anziché usare questo, ma io uso il baracchino che è meglio. Ehi, e Lucio come facciamo? Io tutta la settimana li ho usati tutti, adesso però non ne ho voglia, sono qua a centrale. In sala radio, nel senso che sono davanti, ti ho fruttato la sala finestra, stavo davanti i baracchini, tra la settimana ho giocato tutto, mi ho tolto tutto, dai, adesso usiamo questa e basta. Sì, oh Franco, bel lavoro, sì, lascia simmetrizzatore così, poi considera praticamente un 3-4 mm, te lo chiudi, elimini il simmetrizzatore e vedi se corrisponde, ok? Ciò che hai fatto con il simmetrizzatore se corrisponde con l'accorciamento che hai fatto sull'antenna. Se non corrisponde, allora rifai il simmetrizzatore se non vuoi accorciare ancora. Se no accorci fino a quando vai a 1,2 come era col simmetrizzatore, ok? Sì, sì. Il l'unico problema è che c'è in mezzo a due pompe di calore, c'ho il QRM adesso a Santiago 4-5. Sì, ce l'ho io a 2-3 e c'ho l'antenna sul tetto, non è quello il problema. Già lo superiamo tutti il QRM, dai. Avanti Gianni. Gianni. Capuzzo. Umido. E così è, così è. Carri buoni ci vogliono per usare potente, se no si va in perdita, cari miei. Si va in perdita. Io ho tutti i cavi interni fatti completamente a misura, sempre con lo stesso cavo. Ho provato una volta a cambiare cavo, voglio vedere se il problema è quello. Ho cambiato cavo, ho messo un 213 anche invece della Camille, dall'amplificatore all'HF. Le stazionarie da 1 rapporto a 1 sono salite a 1 rapporto a 5. Quindi la realtà è quella. Vabbè. Ognuno del proprio impianto fa lui, io, il mio stazionare non ne ha, a 10 watt non ne ha neanche 100, quindi è così. Va bene, riprendi Fra. Sì, adesso piano piano bisognerebbe prima di tutto allontanarlo da quel ferro, perché proprio, siccome diciamo che è perpendicolare al mio, perché sopra di me c'è un'altra signora che ha il ferro per stendere, quindi l'antenna io l'ho collegata a quel palo, a quel ferro a tira, e quindi di conseguenza mi sale su di diretta, mi va a trovare un altro attacco che magari me la sposti, me la disassi da quella staffa lì. Io me puoi provare, vediamo un po' Valerio se ti sente, Valerio. Mi allontano un attimo, scusate. Ehi a te, Franco cosa c'ha il bip? Sì, tu lo senti a Valerio Fra, lui sente solo il bip, è già qualcosa, prima non intendiamo anche una mocca volata. Adesso no, comunque ho staccato tutto, no, lo sento perché c'ho quel QRM che è altissimo, dovrei beccare proprio la giornata. alternata che ha spento le pompe di calore. Infatti sto pensando quell'alternata che sento io, no? No, forse la sento io perché mi disturbano le pompe di calore. Allora ti disturbano le pompe di calore, sì. Ok, no, non ti sente, vale, è molto bassa l'antenna, adesso si organizzerà, dai. La sta terminando, ma già così fa minchia. Molto molto meglio. A Santiago 8, esce 9.5 liscio, 9.15 agganciato. Gianni, e vi è andato Gianni, è parito. Puoi metterla alla soddisfazione, dai. No, va bene, fa. Ti aspetta, hai migliorato dal giorno alla notte. Domani Natali. Bravo, guarda il telefono. Aspetta, dove? Vado a cercare, leggo subito. Che antenna ha fatto? Quella che gli ho detto io? No, una di quelle canne da pesca. Allora, lì ci ho detto lo stesso segnale, Natali. 9-5 sei tu e 9-5 è lui. Solo che lui non ce l'ha sul tetto. Vabbè, ma io uso che senti con 3 watt. Neanche quello è vero, lo sto facendo con 10, non lo so, però... Il segnale è noto che è quello, siete uguali, tutti e due. Ok. Stefano si è allontanato un attimo, avanti, vale. Cos'hai detto, vale? No, assolutamente no. Giusto, mi doveva mandare un messaggio o mi doveva chiamare al momento in cui agganciavano il capo. Allora io sarei salito. Salire a vuoto non ci salgo. Capito? Ho provato anch'io a chiamarlo, però non risponde al telefono suo. Quindi non lo so, ma sicuramente con questo tempo non hanno fatto niente. E anche perché Massimiliano in questi giorni è a casa, che il tempo è brutto, quindi non stanno lavorando, è tutto a fango. Perciò ne avremmo approfittato, capito? Io con questo vento dei 3 giorni di maestrale, la pioggia e il temporale, io non mi metto a toccare antenne, ma stai scherzando. Non lo so, tu se sei passato vicino, non ti sei accorto di niente, l'antenna è sempre lì, insomma, qualcosa si vede se è stata fatta da... Beh, io ti ripeto, l'errore mio è quello di non essermi accorto prima, la prima volta che siamo andati, io e tu da soli, che non c'era Massimiliano. Il giorno sono andato a Massimiliano, si è accorto lui che il cavo non era conforme, capito? Se no l'avremmo già cambiato da quest'estate noi, cavo, figurati tu. Vabbè, purtroppo è così, però se si riesce ad avere una giornata non ventilata, anche se grigia, che non piove, però che non ci sia vento, eccetera, non è che ci vuole molto attaccare col capo. E vabbè, se si arriva con la scala dal cornicione, abbassando il tubo e agganciare il PL sulla pelle, non ci dobbiamo salire, però ti ripeto, deve essere una giornata non come quelle che ha fatto in questi ultimi giorni, una giornata non ventilata, e ho rifiutato io di salire su, devo agganciare un pezzo di corda, oppure non ci sono salito perché non fa, capito, vale? Non fa, col tempo brutto bisogna evitare queste cose. Evitare perché è pericoloso, tutto qua. Vediamo un po' se riprende Gianni, se non riprendi tu o Natali. Ho avuto un attimo da fiocco, guarda che ci ha messo di freddo. E troppe cose ho fatto qua, ero da meccanico, l'ha preso e hanno riposato, capito? Ma infatti Antonio aveva detto Gianni si avesse calamaiato, ma non ti preoccupare, no, già, non è un problema, assolutamente, fregatene, il riposo prima di tutto. Dove vado anche a farmi la meditazione, non ci sono andato, ma lo faccio io, non ce la faccio, non lo so portare. Io mi ero rotto lo scatto con un collega, accompagnato alla rete della moto, la Romolo del Pau, e ho detto vabbè, dai, posso prenderti alle 3, sono andato, l'ho preso, l'ho portato, poi infatti non mi ho riposato neanch'io. Poi siamo andati a prenderci un caffè, quindi sono fatto le 4, sono entrato dopo le 4 a casa, avevo già due riposi. Nulla, vuol dire stanotte dormo di più. Avanti Natali, riprendi. Ehi, Gianni, guardate lei quella fotografia che ti ho mandato. Ehi, Natali, ma è la seconda mano o no? Quella ce l'avevo già più di 30 anni fa, non te la ricordi? Io mi ricordo che avevo più una cacciaforte, ma mi sembrava Tamburo, non me lo ricordavo che avessi quella. Mi ricordavo che era Tamburo. Ah, quella era. Marco, te la ricorda che ce l'avevo 30 anni fa già quella lì, è vecchia Isani. Vai, vai. Ma ti la sei? E quella che hai visto tu è vecchissima, quella lì. La Brumi è no? No, Beretta, è quella è vera. Sì, sì, sì, me lo ricordo che tu ne avevi una nella casa tua. Quella cassetta. Ecco, perché mi sono passati qua. Mi ricordavo il modello, però mi ricordavo che era Brumi. Non me lo ricordavo così. Così era una semiautomata. E allora? Mi già l'ha visto anche il Claudio. Marco quando l'ha vista ha detto cazzo se mi fa bene ed è invece io dico ha più anni di Marco. Ma non la stai usata, non l'hai provata? Sì che l'ho usata un paio d'anni fa al poligono e farsi un danno. Io credevo che era così, alla Corriere Rosa invece fa danno quella malattia. Come con la mia però modello prima ormai non sono lì. Vabbè Boglioso, cosa ci racconti? Ti sei divertito? Io? Mi sono divertito, ho lavorato un dannato quest'anno. E appunto ti sei divertito? Sì, mi sono divertito sì. Ascolta, alla Marinetta vi sei andato? Io sono sparato, ma ho visto quello che ha feni e mi ha dato pure lei a Brescia. Ah, da Sabrina sei andato, ci siamo, da Arianna. Mi ha dato lei a Brescia. Servite un caffè, un servizio sì. Servizio, servizio, vedi, vuoi un caffè? No, io sono un bello, non ci vado da Arianna. Bene male, no, fermarmi lì è un casino. Meglio giù all'isola Rossa Porta, capito? Va bene, va bene. Ecco, quest'anno. E se riesco ad andare in ferie ci vado, e se no me ne manca a casa. Meglio vederla poco quella zona, per carità. Vai già. Così cambio scheda, cambio telefono, va. Non faccio a pezzi e ce la butto, mi stanno ammazzando, stamattina mi ha tenuto uno al telefono, ma qua non ho preso, non puoi rientro più, ma vedi o riprendi, e se continuano a premere palle, sì, hai capito, tanto come si l'ho già consegnato, il maggio l'ho già consegnato, ho già consegnato tutto. Continuano ancora in portiere, capito? Siccome io termino il 20, adesso sono ancora in ferie, termino il 20, poi c'ho 8 giorni, gli 8 giorni che ho dato, capito? Perciò mi stanno massacrando, rapporti allucinanti, solo Osio, vai solo a Osio, ti controlli Osio e nulla, forse non hai compreso giusto, una stamattina. Mandaci a tua sorella, non io sorella, mandaci a tuo fratello, nomina futi nuda. Sono detto, stamattina non mi dite, guarda che hanno fatto la strada nuova da oggi la Nurbi, ci vogliono 7 minuti, sì, e quindi cosa vuol dire? Non ho capito, devo colorare io la strada nuova, vai e fine addirittura, vai. Dice vi affrontate, andate voi, fate quello che vi piace. A me lasciatemi tranquillo e sereno che io ho detto questi 2 anni mi ricordo la famiglia, non la giudicia a mattanarmi tutto il bene. Ma offerte allucinanti che non posso dire qua, offerte allucinanti, lascia perdere, lasciami perdere, che non me la putti più nuba, vai Natalino. Scommetto che ti danno il quesseo se rientri a lavorare. Non mi pagano bene, il doppio di quello che prendevo, altro che quesseo, ma non me ne futti nulla. Mi, puttanaro, va. Mia Stefano, ancora vivo. Vai, drogato, va. Quel famiglioso di Stefano. Comunque ho visto Falcone avanti ieri, Raggio. A raggio. E come è sempre uguale te? Speriamo che è grosso. Ehi, vicino a casa l'ho visto lì al centro Tanit, lì stava passeggiando da solo, è grosso, grosso, è sempre lo stesso, però è invecchiato ovviamente. Se il naso è sempre lungo, tutto gonfio, l'avevo visto anch'io una volta, però lui no, non si ricorda di me, non mi sono mai fermato. Era lì alla fermata dell'autobus in via, e forse era lì vicino a Corte Santa Maria. Vicino a Corte Santa Maria, o stava scendendo o stava salendo, non mi ricordo, forse stava scendendo a casa. Caro Gianni, a te non ti vuole mandare, a te non ti vuole mandare, o non lo so, capite? A me mi vogliono far rientrare, vai e cosa di vai. Gianni. Via, capito, capito. E ma infatti non fa, io non me ne frega niente di suo bigiato. Io 2 anni mi li voglio trasferire con la famiglia, ho detto che quest'anno io non ho messo piede in spiaggia a vedere se la sabbia era calda o fredda, capito? Ho giocato tutti i rivetti, tutte le veliche, non ho saltato una, ah vai, allora che 2 anni così aiuta, no. Gatto che ce li ho, li ho scoperti questi 2 anni, me li faccio a traccia, non frega niente, ma se tu hai differenza, già va bene, non frega manco per l'anticamera. Ascolta, te, e Paolo come sta? Tutto a posto, io mi sento quasi ogni giorno, in ordine, tutto bene. Ascolta, quella svizzera che avete fatto, quella che ci siamo sentiti in 40, tutto bene adatto? Sì. Io ho fatto la mia parte, insomma, vabbè, alle 90 lo sai, no? Che ogni mese c'è una regione per cui noi eravamo nel mese di ottobre. Vabbè, c'era un'altra, dicembre c'era un'altra e poi finisce il diploma. Noi abbiamo fatto la nostra parte, nel nostro piccolo, io ho partecipato come tutti. No, noi abbiamo fatto il nostro meglio, dai, è andato bene. Ascolta, poi mi hai messo all'obby, sì. Certo. No, pensavo che ti hai dimenticato, ma ho fatto qualcuno. Va bene. Sì, infatti ieri stavo ascoltando i 40 e c'era là, il T9 mi sembra, il T9 la Sicilia, sì. C'era la Sicilia che stava chiamando i 40 metri per diploma di 90. Va bene, salutamelo a Paolo quando lo senti, non ti dimenticare, salutamelo poi, se sei a casa un giorno facciamo come abbiamo fatto l'altra volta, ci andiamo oggi a pranzo e così ci facciamo 2 chiacchiere. Avanti, Valerio, riprendi, lo senti a te, no? Sì, sono da questo alghero, tu non senti a nessuno. Allucinante, sì, o c'hai QRM, o c'hai la R-Moscia, cazzo, non senti. Mi ascolti, Valerio? Hai sentito a te? Mi ascolti, Valerio? Vabbè, ti sta chiamando a te, ma non lo senti per niente. Vabbè, dai, poi attacco lo scaldo a bagno. Ehi, anch'io attacco il vento e l'acqua. No, ma è un problema di Valerio, c'ha sempre QRM alto, qua sa se non ce n'è, perlomeno io qua con 4,40 c'ho 2 di QRM normale, però fuscio non ce n'è perché il vento a canaffo e non sta piovendo, quindi sono fuscio non ce n'è. Va bene. Avanti, Natali, riprendi. E io lo sento da Livio, ma con questi gatti non penso che mi senta lui. Con 5 watt forse già mi sento. E poco fa ti sentivo al bippi. Vediamo un po', c'è Marco riprendi tu e vai per Franco, vediamo se ha messo a posto tutto. Allora, Franco di Sassari, Franco ci sei? Sì, vabbè, io adesso vado via e c'è roba da fare qua, dai. Franco? Sto sistemando un po' di roba di casino che c'era nella stanza. Vedi un po' se ho cambiato qualcosa da te, Marco di, ciao, comunque, buonasera. Vediamo un po'. Un passaggio. No, tu mi sembri uguale, come segnale mi sembri uguale gli altri giorni. No, tu sei un po' più basso del normale, sei la boomerang e sei più basso, sei tra 9,5 e 9,10. No, ho fatto la Game Master, l'ho fatto. Oh, sei più basso che con la boomerang, boh. Forse era puntata verso di te, non lo so, non so cosa dirti. Allora, qua Marco era Santiago 8 del 9 più 5. Quando attacca è 9,15, 9 più 15. Salito parecchio qua, tantissimo. Tu dicevi di non farla, Cla. Se l'avessi sul tetto, cazzo, ti arrivo 9,60. Vabbè, Natali, tu sei davanti a me, sei più vicino anche, cioè ti vedo. E tu considera che con quell'antenna che hai, Natali, quando tu aumenti la potenza della radio, mi arrivi 9 più 30, così come hai l'antenna adesso, 9 più 30, adesso sei 9,10 con 3 watt, quanti watt hai non lo so, quindi il tuo segnale è ottimo e non è che ti puoi lamentare, capito? Il problema è che non puoi usare tutta la potenza della radio. Così a 5 watt. 5 watt sì, come arriva Franco attaccato. E così sono tornato come prima, 3 watt sono. Capito? E così sì, quanto è Franco liscio? Però Franco sta usando 10 watt, quanto ne stai usando Franco? 15, modulati quasi 20. Fate un conto, 3 volte tanto è Natalio. Natalio con 3 watt arriva, quanto arrivi tu? Quando tu attacchi arriva 9,15 e Natalino arriva 9,15 uguale al tuo con 5 watt. Fatti giù conto. E vabbè, sono la mia posizione questa, quindi vi vedo e è un casino. Vabbè. Avanti, doppio root. E io quando ti arrivo dici. Tu sei 9,20 di show. Diciamo quelli bisogna fare quel lavoro senza metterli pieni, guarda, io ce li ho 4, i nuovi e li sto dando a Luca in alluminio, li avevo tolti vuoti, però con i suoi tappi sembrano proprio originali, con la mantova turbo, capito? Sono più leggeri, capito? E la vite stessa passante. È un bellissimo lavoro lì, quando fa tempo bello già si abbassa e si rimettono i radiali in fibra. Io ce li ho 4, però devi darli a quello che sei tu e devi far tornire, perché sono a filettatura, devi fare mangiare la filettatura e farlo fare a incasso, capito? Beh, non ho vista, non ce la fa a buttare. No, già è più grande la filettatura e se no l'avremmo fatto domani. Non fa capire la filettatura sull'antenna che avevo. Sono nuovi, sono neri, ben robusti, belli. Infatti volevo cambiarli e metterli nella mantova, però volevo torniti. Mi sono passati al tornio, mangiata la filettatura, è fatto praticamente lo stesso diametro dell'ingresso sul motto dell'antenna. Mi hai fatto un bel lavoro. Se li dai a quello che sei tu, te li fai fare, si abbassa l'antenna, si mettono dentro e si mette la vite autofilettante per tenerlo fermo, boh. E c'è i radiali più robusti di quelli in resina, però sono plastificati, capito? Flettono lì, quindi non si spettano e non li perdi. E a chi ammola la supponeva? Metti la mola e li fai ammola. E vabbè, magari vengono storti, vengono un lavoro fatto, boh, non lo so, si potrebbe provare anche così. Potrebbe provare, non è un problema. Vediamo, lasciamo arrivare il tempo bello già, e poi si è una sistemata anche la tua. Sì, ma già va bene anche così, c'ho uno e uno di stazionari, non ho stazionari, non c'ho niente. Va bene lo stesso. Sì, infatti. La generata della mantova turbo io con due radiali, erano tutti rotti, tutti, i piccioni e i corri non avevano rotti. Mi ero spostato via Pascoli, quando sono entrato ho messo la mantova una nuova e c'è sempre quella. L'ho detto l'altra volta, mi raccadia che è 100 storni sopra l'aria, non fa niente perché fretta, non fa niente, se li metti l'alluminio rispetto. Uia, beh, riprendi te quando andare a mangiare il cane, va? Ecco, vabbè, non è per niente, non è per lui. Comunque io li ho messi di piedi perché quelli buchi rispettavano subito, ho messo i piedi ed ho messo anche la lettera per gruppi, quella rossa, per tenere. Beh, ce l'hanno fatta anche aspettare quella da quando ce n'era, non c'è ragione, si dedicò a tutti i radialisti. Io gli devo vedere cosa c'era a sorso di Pidriati. Era uno spettacolo, Claudio, si incrociavano uno con gli altri, c'erano migliaia. Sentivi pure io col calibro 12 sotto. Natale ti dico l'orario pure sicuro, guarda. Passano sempre verso le 5 e parlo dietro al carnetto. Parlo dietro al carnetto di Platamona. Verso le 5 ci siamo sempre, ma c'erano anche stamattina. Stamattina io mi dissi sì alle 8 che quando sono tornato alle 3 era pieno. Ma io l'ho detto scherzando, non ci posso andare che mi arrestano se mi trovano. Sparano dagli stormi. Si possono sparare, beh. Sì, quando ha fatto il tordo, sì. Però io non ne ho licenza di caccia. Io l'ho versata in questura perché dice due portodarmi non li potevo tenere. E vabbè, datemi quello sportivo e basta. È meglio, con questo non pago niente tasse, invece un ghigo mia voce che abbia la carta devi pagare. Ed è un bel soldi sono, adesso c'è che si paga un bel. Se vado a rinnovare il portolarmi la caccia mi costa più di 700 euro. Sì, non lo dico. Ha detto un amico, ma ha detto che non ne vale più la pena perché ci tocca selvaggino. Infatti, una cosa che il mio cruccio è di non essere mai andato a caccia grossa, quello già, perché avevo paura delle palle che rimbalzano e avevo ragione. Ah, beh, vabbè, io ho un collega che ci fa 5 anni, e ne prendono anche una bella compagnia, soldi. E ci ho inviti per andare a caccia cinghiale in Gallura, in Ugnaruku. Conosco gente, ma non puoi più entrare nella compagnia perché adesso è un caso. E ci andato tutto. Sì, ma non mi piace andare in Gallura, basta andare a Portoferro, con la zonetta tu viene cinghiale. No, è che non ho porto d'armi per andare a caccia, se no i cinghiali, ce ne sono anche in me, ce n'è in campagna mia, è invaso, ma mi hanno detto. Se mi hanno detto andare a spararli, i miei fratelli, ha detto no, no, i baglietti, sì, manco mio cugino si è voluto salire. Ma dov'è per vorrei stare con Rubino come ti ha servito? Ti credi sia così? Ciao, Dio. Controllano a vedere se risparmi. Cazzo, hanno messo la multa a mio nipote perché non ha segnato il pezzo. Sono andati a coi Pusiguru e l'hanno multato. No, Sergio non ci va a caccia, a Paoletto avevano multato. L'hanno visto che se l'ha raccolto e non l'ha segnato nel libretto. Sono andati, hanno fatto il giro, l'hanno domandato i documenti e l'hanno investigato in pieno. Perché ogni pezzo lo devi segnare, così? E allora, nel libretto regionale. Ma chi? Capito, tutto devi segnare. Non c'è nulla da fare, se è un cinghiale devi segnare il cinghiale, tutto. Allora, ma anche a sentire, questa signora ha detto, se trovassi qualche cacciatore, mi stanno qui a tutto il sotto di presa, mi ha rovinato, mi ha fatto gli scavi, e un giorno abbiamo fatto la foto della vicina alla foto. Ehi, solo che non ci puoi andare a sparare in città, per esempio. Ma è così, no, se ti trovano da retani, e ti mi ricreggiano tutto. Ti credi un cazzo grande, anche io vi riparia. Oh! Sì, ma... c'è tutto qualche posto isolato, anche... perché Santa Teresa è pieno. Tanti cammino si sono trovato vicino alla porta di casa. È vero, vanno sull'uscio di casa a cercare mangiare, capito? In campagna mia è pieno. Dove sei Nazani dalla ferrovia, Nazani? Vabbè, fate qualche trappola. Ehi, qualche trappola. Perché la fucilata poi si sente lontano, da molto lontano, capito? Noi Lucino. La palestra ci vuole. La palestra. A pigliare il cinghiale, dentro la palestra. Già è difficile con un fusile che abbia bruci. Se fermo magari mia è facile, ma se correndi non è gai a fare la balla. La balla sola. E infatti la balletta la mettono vicino dove parte lui, come tira lo spago, parte il corpo e lo becca. Se per quello fanno quei tubi d'acqua, ci mettono la cartuccia calibro 12, dove lui fa rimane fucilato. E la fa troppo rumore? Capito, fanno troppo anche così. Chi è? Chi è? Questa era la voce di Concetta. Ciao Concetta. Ma dove sono gli animalisti? Chiamano a tanti, lo vanno a stare. Comunque è pieno, anche dove lavoro io fanno un danno enorme, fanno franare tutto, massi, pietre, fango, di tutto. E si vedono le orme, di notte fanno le scorribande, le bestie lì. Ancora no, la pensione me gliela danno a gennaio, però dal 20 dovrebbe entrare in pensione, non ci fa più. Peggio Baresi che non l'hanno i bucciuri cucciucci l'acqua a suo tempo. A chi vi pulia la gente imparata che lo sappia fare sul travaglio. A voi sono un pentiricattoli. Adesso mi sarei fatto male. Vuoi che ci faccia quello? Mi dai tanto. Ma il fatto che Claudio non ci vuole andare, mica è un travaglio massacrante. Di che sia così? Deve stare in giro. Se ne so qualcosa io, se ne so di giù, di gatto, in giro, urugamia. Maria, non arrivi mai. Lo so, anche io ho fatto con la Bolivia la fine, la casa sopra, facevamo la Maddalena, Nuoro, c'è dalla Macellata, Urbia, quando ritornavi qui dovevi caricare per domani, immagina. Non è quello. Se ti gioco di senti, quando mi toccava l'uso di andare a Maddalena, mi dovevo fare prima Santa Teresa, poi Balao, la Maddalena, un po' di voci, invece di tutti i subito, avevo altre cose da consegnare a Sant'Antonio di Gallura, a Calangiano, sul Tempio, e mi ne tornavo dalla 131, fatti il conto, roba di Iro. Te lo faccio anche sentire, stavo alle 4 di mattina a lavorare. Alle 4 partivamo, poi quando ritornavi la sera a caricare, c'era quando era carico il camion, non se ne andava. Non mi piaceva con la vita, tutto impegnato sul gioco. Già, dimmi, non è tanto il viaggiare, no? È il problema mentale, no? Non ce la faccio più a seguire tutte le cose, capito? No? Non va bene. C'avevo 12 impianti, mi va per scherzando, 12 impianti nell'arco di 200 km, già non è uno scherzo, no, non è cosa da scherzare, pure nel periodo estivo il doppio, no, non ce la faccio mentalmente, non sono più un ragazzino, no, assolutamente, ci sono troppe cose da seguire, troppe cose da fare, mentalmente però, capito, scrivere, fare, riportare, relazioni, controrelazioni, buoni. Lascia perdere, è una cosa massacrante, c'ho la testa così ancora piena di ricordi che già manco neanche 20 giorni già, e ancora, e stamattina lo stesso, e prima un collega, e poi un altro, poi un altro ancora, poi mi hanno chiamato a Cagliari, no già, dico solo una cosa, guarda, dico solo una cosa. In quattro mesi, l'ultima offerta che mi ha fatto stamattina, in quattro mesi, giugno, luglio, agosto e settembre, guadagno la metà di quanto guadagno in un anno. Ma tu sei ancora lavorato, Claudio, pure? No, io manco dal 28 di ottobre. Dal 28 di ottobre al 20 novembre io sono in ferie, ok? Poi devo dare gli 8 giorni, li ho già dati, ma non ci vado, neanche gli 8 giorni faccio, capito? Niente, nulla, perché ho dei roll da recuperare e quindi mi scalano da lì gli 8 giorni, capito? Ma sono in forte difficoltà nella mia zona. Forte difficoltà perché Cagliari non ha personale esperto da poter mandare, Sassari non ha fatto le cose che doveva fare, come avevo detto io, adesso si trovano molto in difficoltà, ma io io questi 2 anni me li voglio fare a casa, no, non me ne frega niente, sono riuscito ad avere e me li faccio a casa. Cioè tu adesso andresti 2 anni e poi? A me l'Inps mi ha dato 2 anni di scivolo, perché ho iniziato a 16 anni, ok? Te l'ho già spiegato, sono io 2 anni dovevo lavorarli. Ah ecco, capito. Ho iniziato presto, quindi lavoro precoce. Esatto, e me li hanno dati. Mi hanno assegnati nello storico, quindi, però mi hanno messo in condizioni, mi hanno detto come funziona l'Inps, mi ha detto se li lavori questi 2 anni, questa è la cifra, se non li lavori che noi te li diamo come contributi già assegnati perché ti spettano, questa è la cifra. E io ho detto subito, ho guardato con gli occhiali, ah questo è questo, ok, dove devo firmare? Già ci sono 120 euro di differenza, ma come si fa? Immaginate che io con la macchinetta, con la 600, spendevo da Sassi Sassari a Sorso, tutti i giorni al mese 80 euro di benzina, da 120 togliene 80, tutti i giorni la colazione, le sigarette, e offri un caffè a uno, e offri una bibita a un altro, perché nell'ambito lavorativo mio è così, io sono a contatto con tantissime persone, e se ti fai un giro di conti le 120 euro diventavano 200, cosa vado a fare? Capito già, cioè non c'è rapporto, non c'è niente, la differenza è poca, e quindi è così, e poi ti ripeto con molta sincerità, il lavoro mio non per carità di spezzare quello degli altri, perché ognuno c'ha il suo, però io a seguire tutte le cose che ci sono da seguire ancora per altri 2 anni non ce la faccio già, non ce la faccio. Ho incarichi troppo, cioè mi hanno dato di tutto e di più, quindi non ce la faccio, quindi ho buttato la spugna, basta, ho detto basta, nonostante loro continuino perché hanno necessità, per carità, non, tutti siamo utili, nessuno è indispensabile, però evidentemente loro hanno necessità ancora di me e quindi stanno cercando di pressare per far sì che io non vada via, ma glielo ho già detto stamattina, nulla, non ti ne fate offerte, non ve vengo più, basta. Quando invece sei deciso a guidare in luce, tanto sto partizzando amaro e cosa, sarete a casa tranquillo, tutto che non ti ha nulla, cercati qualcosa da fare, perché tu con la sorpresa l'hai pensato a lavorare dietro. No, ma non è quello già, io non sono girellone più come prima, non frequento bar niente, esco la mattina presto alle 8, 8 e mezza, neanche domani mattina, mi hanno già chiamato alle 8 e mezza, c'è un appuntamento con degli amici a prendere il caffè, ex colleghi, ci prendo il caffè, poi alle 9 sono a casa, mi sistemo il cane, vado a fare la spesa, oggi sono tutto il giorno a casa, anche stamattina alle radio, non vado a nessuna parte, già non me ne frega niente. Però mi sento molto meglio, mentalmente mi sto un po' liberando da tutte le cose, stamattina mi l'ho detto a Natalino che mi ha pigliato in giro, sono riuscito a alzarmi alle 9:30, capito? Io già apro gli occhi, lavorando aprivo gli occhi alle 4, a incubi, capito? Mamma mia, che ore sono? Io sono alle 7, sono autospurgo, dove venire quello, dove venire quell'altro, devo andare a mettere materiale, cazzo, io uscivo con gli incubi, Gianni, con gli incubi, no? Non si buffa una vita del genere, capito? Ti capisco perché anche a me succede lo stesso. Non mi credete, ripeto. Io alle 6 di mattina sono uscito a letto, giorni, e anche la domenica che potevo riposarmi, mi sveglio sempre massimo tutti alle 7, se poi dovevo essere più dalle 50, se esco, magari mangio la pizza, non fare di più. Ma tutto alle 7 mi sveglio, capito? Non riesco a dormire a lungo, ma io non sono mai stato dormiglione che si incontrare al tempo la mattina, come per dire mio figlio, se ti vuole essere a mezzogiorno, non sta sino a mezzogiorno addormentato. Siamo lo stesso, ci sono stati tutti, invece io non so più. Da lì sono sveglio, anche se non sono all'orologio, io ce l'ho mentalmente proprio incorporato. Non ho mai avuto sveglia io già, no? Non ho mai avuto. Le prime settimane mi stavo svegliando lo stesso alle 6, un giorno di domenica mi dice Gubu Bisardo, io gli ho detto ma dove stai andando? Andavo a lavorare, sono 6:15, ma non ti curi, esaurito veloce altro, cioè già, no, lo sapevi, no. Mi chiamano Aspiri Contrale, cioè io da Sorso a Trinità, quando avevo appuntamento magari con Leoni, con Diana, con qualcuno che c'erano dei problemi eccetera, io cioè nel cuore della Trinità da Sorso, capì, non si può così, non si può diventare macchi, di solito quando sta piovendo ti ammatti, già non fa, perché il telefono dalle 7 che inizia a squillare, clacce, ti sto aspettando, ok, sto andando, dire che sto arrivando, clacce, clacce, l'impianto fa cla, e cla cosa, cazzo, ma c'ho lui, io mi gioco. Cosa sei? Sei tutto a frusci. No, non si capisce niente a te. Capito già? E quando io dissi, perché lo dissi tante volte, guardate che, ma vai, ma finisci, Giulia, ma cosa stai dicendo? Ma quando mai? Non la so tutti, capito? No. Oh, ma ti dico solo Gianni che l'altra mattina, non so perché, mi sono andato a spegnere il telefono quando sono andato a letto, l'ho lasciato acceso, alle 7:15 ho spiegato il telefono e il mio collega, perché non sapeva che io non c'ero, il mio collega della zona appunto del distretto 6, quindi al mio tempio, mi ha chiamato che c'era l'impianto allagato di Trinità Lagurto. Mi ascolta, io ti rispondo perché non lo sai, no, come sono, perché in ferie c'è la scusa, no, io sono in ferie, ma da domani per dire non ci sono più, ok, chi è che mi sta sostituendo? Mi sono scese le braccia, sostituendo, a te, mi ha detto non c'è nessuno, io ho la reperibilità al tuo numero, il mio numero reperibile, se sono in ferie, come ti vai a avere il numero mio? Tu immaginate che punto sono, non hanno neanche dato le coordinate giuste a dire guardate che Claudio è in ferie, quindi bisogna chiamare a Tizio, bisogna chiamare a Gianni, nulla, sempre io ci sono reperibile, nonostante sia in ferie, fai uno più uno. Sistema, così è claro. Ehi, non è lui che mi fa non so montare le direttive, se c'avevo quella scatoletta che si agganciava per piede, maestro, questa è quella che va sopra, no? Perché stava selezionando tutti i radiali e tutti segnati, accordati, sai come lavora lui, no? Molto preciso, molto ordinato. Ha tagliato un gol, c'è uscito in campagna, cazzo, adesso, ma me ne esci tu e queste scatole giocattoli, io predici all'attore, occhielli, ho fatto comprare gli occhielli, quelli belli decci, riempiti ben di stagno, col cavo che usciva fuori, ma uno spettacolo, un lavoro a regola d'arte. E beh, c'è il capo diretto, io oddio, e poi fatto da lui che adesso ce ne siamo pochi che fanno lavori così, sono lavori fatti in manovra. Io non ho assolutamente niente da dire, a prescindere da quello che può essere successo, eccetera, quelle sono altre cose personali, ma le mie antenne sono montate veramente bene. Il sistema mio l'ha fatto Fabrizio, un sistema molto molto bello, molto fatto bene, con molta tranquillità, ma soprattutto con molta attenzione, poi ha fatto bene, non ho niente da dire, sinceramente, ho imparato anche altre cose che non sapevo, quindi va bene così, dimmi o... No, niente, non ho chiamato. E chi è che ha parlato? Chi è? No, c'è qualcuno che stava parlando, forse no, non so chi è, capitano Natali. È costruito molto bene quel sistema, molto bene, piazzato molto bene, fatto meglio, me l'ha fatto lui, ma c'ha dei tirafondi allucinanti, chiave 19, avevamo Zimbubi su sistema, anche le antenne sono piazzate bene, tutto è fatto a regola d'arte, non ho niente da dire assolutamente, per carità, ci mancherebbe altro. Vai, già. Non so se si può fare anche la matta qualche cavo diretto, penso di sì comunque, perché basta dove c'è il cavo del PL e tirarli fuori e mettere gli occhielli sia uno che l'altro, così è nata lì. Beh, cazzo, la canna pesca non mi dire che stai mettendo il PL, non mettili gli occhielli, fallo a cavo diretto. Boganino, PL, metti il cavo diretto. La massa bassa stellata, un po' più lunga, ma fatto male, vulcanizzata, bene, con l'occhiello. E centrale lo stesso, lasci tutto il rivestimento quello in quello di sola gomma nera, lasci quello il rivestimento normale e gli metti l'occhiello. È una cannonata così, capito? Una cannonata. Anche il dipolo, già lo sai, no? Dipolo, che lo stesso non ha tomato, anche quello è occhielli. Lo stesso, quello a cavo diretto, non ce n'è piede. Quello è diretto, capito? Va bene. E quindi ste, hai messo a posto? Sì, tutto a posto. No, ho usato quell'impiantino in funzione di alcune attivazioni, per cui ho necessità di avere le mani libere, il microfono e PTT a pedale, se c'è la mano libera usi il computer, scrivi e fai tutto quello che vuoi. Sì, ce l'ho anch'io il pedale, non c'è problema. Chi è? Sì, perché stai gridando, certo che ti ascolto. Sì, Gianni, stai riuscendo anche bene, non c'è problema. Sono io, Gianni, Stefano, Principe, Natalino, Franco, forse Franco, non so se arriva, non so. Avanti te. Ciao Gianni, buonasera se mi ascolti. No, non ho capito chi è. Lui è venuto, e lui c'è, ottava, direzione sud. Sta rientrando in domo. Va bene, Pinù. Ciao, buonasera, ben ascoltato. Gianni, riprendi. Sì, ciao, Pinù Centermoro, ho sentito anche a te, dai. Buonasera, e ciao anche a Gianni Capirù. Buonasera a te e buonasera anche a Pinuccio, se mi ascolta, penso di sì. Io rimetto a Franco, avanti. Sì, volevo vedere se oggi mi sente. Capri 2, mi ascolti, cambio. Mi chiama Capri 2. Sì, ti ascolto benissimo. Ti ascolto bene, dai. Ti ascolto meglio con te. Sì, ma io voglio capire, quello che ti ha chiamato è Franco, che prima non sentivi, adesso lo senti, così è. Ma prima non lo sentivi, così è Fra, non lo sentivi tu a Capri prima, o lui non sentiva a te? Sì, no, io non lo sentivo, mi sa neanche lui sentiva. Ah, sì, ho autocostruito un'antenna, una Game Master, e oggi l'ho provata. Già ci sono, vediamo che mi senti tu che sono controllato. Inteso, già. Non mi sente evidentemente, vai. Ma non risponde neanche a me. Quindi hai visto Franco il miglioramento? E stai arrivando a muro, cioè che non è poco. Sì, lui non è fortissimo, il segnale è sul 2, sempre con questo smitter. Però adesso lo sento, prima invece non lo sentivo niente. Hai visto, quindi ne conviene quello che ti ho detto. Se quell'antenna la sollevi ancora, nella stessa posizione in cui ce l'hai, senza metterla sul tetto, cerchi di mettere un tubo più lungo e farla uscire almeno un metro dal tetto, guarda, è una cannonata. Infatti c'è Stefano, non lo so, per me vorrebbe proprio sul tetto, perché almeno l'aria bene in tutti i lati, dai. Se no rimane sempre nel muro, una facciata è sul muro proprio. Se la metti sul tetto è una bomba quella. Vai tu. Oh, ma se ce la fai mettere sul tetto, se no va bene anche così. La sollevi lì. Vai te. QSL, vi mando 10 minuti, faccio una telefonata che mi devo fare una cosa. Dai, rimango nei reggi, a te dopo, rientro con breve. Eia, va bene, va bene. Ma Marco che fine ha fatto? Ma quando stava? È andato via Marco, doveva fare cosa? Ho capito, va bene. Ok. Avanti, doppio lunghe, prendi. Che ore sono? Le 7:10, tra un po' io mi preparo. Chi è, chi è? Poc'anzi ti ha rilanciato Natalino, lo senti? Non fare come uno che si è addormentato sul lineare, l'esploso. Si è addormentato con la mano sopra il microfono. Si ti dia sul raggete, bro. E poi ha fatto tutta la salzalena. Ma com'è il muso? Tutto è copiato che. Ma com'è la stessa così di valvole affronti? Chiarezza, ma non lo senti a Natalino Capri 2? Non posso aumentare, che se aumento mi vengono vibrazionisti qua. E vabbè dai, non mi va di disturbare che c'è uno che lavora col computer, anche il computer dice che si ceppa quando parlo io. E per quello sto uscendo con 2-3 watt, va. Ferrati sono. Chiaramente logico che io posso aumentare anche di molto, però non posso perché come aumento subito disturbo, se superi 5 watt mi fottono. Sì, 9,25 sì. Ma per più pressione te ne sei andato, già ricapito. Tu sei più vicino di lui. Quanti anni c'hai già? Mi fa sempre dato 58. Ma è una già 80. Sì, vabbè, tu perché lavori solo la mattina? Lì, se poi sei libero, anch'io, capito, però con i vostri incarichi, quindi non mi sono ritirato, boh, finito, basta così già, ho già fatto, mamma mia come sto, riprendi Stefano, no, Stefano era al telefono, riprendi Natali. Qui che c'era anche Pinuccio, che non ho sentito però. Poi quando quel pezzone sta sempre guardando si catalaghi della Inde. Ci fai niente per il baracchino, io. Eh beh, può comane. Un bracone tragico. A lei, a regionale dei femmina, sa che posso allogare il del fuoco. E che? Questo è fortissimo, che è Pinuccio? Lorando, te che c'è più, la sono le femmina, e te femmina, ma non è femmina noi. Allora, tu che le vuoi me leva per la deschidare? La musica mi sono scusa fisarmonica e vai col tango. Ah, come dico, anzi, le femmine sono bigere. Non tu parli a musica. Come Pomponio, Pomponio. Ma ha scambiato per Pomponio, ciccio che vergogna. Io ho il tuo cacchio, se c'è pure il capo già. detto cuoco, ma siccome Pomponio lo chiamavo, lo chiamiamo con i più vari appellativi, no? Motopompa, eccetera, allora si è confuso, dai. Oh, che fatica, non ho fatto niente, ci sono già due buste di roba da buttare, mamma mia, quello che ci aspetta. Arrivata con la bacchetta la signora. Sì, domani arriva, Dio smemus. Ma io dico a buttare quegli stanzini, cioè ogni volta che ci buttiamo si riempiono di nuovo. Sembra che ci sia un buco nero che ci riempie di roba. Oh mamma mia, quello che mi aspetta, non mi sentirete più per almeno 10 giorni. Povero me. Vi mando un coso, le mie prigioni. D'altronde sa da fa, bisogna farlo. Perché sennò poi, se abbiamo gli stanzini pieni, non possiamo comprare roba nuova e accumulare, capito? Ma chi viene? Il carabiniere lì? Ehi, la carabiniera, ti ha chiamato oggi, volevo venire oggi. No, sto uscendo. Era andato da Conforama a guardarmi le cucine, perché la nostra mamma l'ha distrutta con quel fuoco. Avete parlato in quattro. E che dopo si può anche. No, non lo sapevi tu. Una volta mamma, non so, ha lasciato materiale infiammabile vicino al coso, al fornello. Si incendiava, proprio c'erano le fiamme, ha bruciato i pensili, la cappa, proprio le fiamme. Un asciutto, l'ho spento in un attimo però con due secchi d'acqua. Si è rovinata la cucina, ha distrutto i pensili, la cappa proprio disintegrata, non c'è rimasto niente, manco pure metallo sciolto. E hanno erito i muri, ancora non ci siamo ripresi, dobbiamo ritinteggiare i muri. Abbiate pietà di me. E darmelo per qualche cosa. Mamma sta diventando pericolosa, o cade, o si lascia il gas aperto, anzi adesso non sa più se sta succedendo, o allaga il bagno, perché lascia il tubo della lavatrice, anziché metterlo nel gabinetto lo lascia a terra, se ne dimentica, capito? O mette fuoco a casa, non mi arrivi né una notte. Mi è venuto difficile, anche papà faceva l'equilibrio quando non mangiava. Non sarà dell'Isis, no? Come? Non sarà dell'Isis, ho detto. Chi lo sa? Mamma mia, purtroppo non è da rimanere sola, mamma, capito? Bisogna un po' di l'occhio vigile. Anzi, è da un po' che non lascia più il gas aperto e non rovescia l'acqua. Prima allagava anche la cucina, quello di sotto disperato. Quello che si mette sempre a voce, mi. Sì, vabbè, lo già scende l'acqua, non c'è l'acqua, dai. Vabbè, lo ti senta sa. E ti scarichi la lavatrice, come ce l'avrete? Quello c'era nel cesso, quell'altro c'era nel lavello. Io la lavatrice c'ho nel suo rubinetto. Barretto, apro e chiudo e lo scarico, sempre nel muro, come se fosse un lavandino alla cucina. Non so perché ci avete questi tubi tutti volanti. Ah, così è, non ho capito. Oh, qua c'è l'impianto fatto come deve essere fatto. Oh, Marco soprattutto sta dicendo che rubone è un gommolo. Ma che nonno me lo faceva scaricare o nel lavandino della cucina, noi nel gabinetto, c'è quel tubo curvo, no? Cosa dobbiamo distruggere a mezzo bagno per mettere uno scarico di lavatrice? Ma non esiste, no? Perché non è stato fatto, non era predisposto, ma qua è stato predisposto e c'è, capito? Anche via Pasqua è la stessa cosa, c'era lo scarico così, direttamente. Io non ce l'ho in bagno la lavatrice, ce l'ho in cucina, dove c'è il posto, dove c'è l'angolo per la lavatrice, capite? Lavatrice, la coviglia, c'è tutto lì. E vabbè, ognuno c'ha l'impianto suo. Qua stavi dicendo, guarda, chi è che ha parlato secondo me? Anni 50 l'hanno fatta, no? È obsoleta come organizzazione di tutte le cose. E vabbè, mi arrivavo io al conto di sonno alle 9, Marco, ho legato il bagno, io no, di nuovo. E guarda, non è da lasciare sola, no, è pericolosa per se stessa. Una volta mi ha preso fuoco la padella di Lorio, voleva buttarci l'acqua dentro, ho detto, non lo fare nemmeno scherzando che ti esplode tutto. Piglia proprio, fa la fiammata. Marco. Sì, non riesci a collegarla dietro il lavandino, allo scarico del lavandino, metti una deviazione, un T, e le colleghi tutti e due allo stesso scarico. Ma per la lavatrice, no, lì è diverso, lì è in bagno e di fronte al gabinetto. Di fronte al gabinetto, la lavandina è dalla parte opposta del bagno, non fa. Oppure dietro il gabinetto fa un attacco, però con un attacco serio, diretto. No, bisogna sfasciare muro e tutto. Ormai ci teniamo il sistema che abbiamo, dai. Non ne vale la pena poi di qua rifare tutto, devi spendere decine e decine di migliaia di euro, se non centinaia di migliaia di euro, a farlo tutto moderno. Non ne vale la pena, meglio farlo crollare e andarsi ad abitare altrove. Eia. Vai, fate girare, dai. Io. Oh, Claudio. Oh, oui. Mi ricordo, no, quella volta che si era bruciata la cucina. Io avevo buttato i secchi nell'acqua, ero anche un po' sotto shock come per le fiamme che ho visto. E poi avevamo chiamato quelli sotto perché hanno visto il fumo, del fuoco, no? Quello sotto è venuto a farmi cagnara perché non avevo asciugato immediatamente l'acqua quando ho spento il fuoco. No, poi dice, ma non già mi ha putti a me se ti scende l'acqua giù. Io ero già terrorizzato dalle fiamme che ho visto, stavo pensando a asciugare subito l'acqua appena buttata, ma esimene. Capito? Quando scende una goccia giù, questo è come che avesse la, come si chiama? La Domus Aurea, capito? Guai che gli cada una goccia, di quelli che va in giro la notte con la pila mia a controllare il soffitto se ci escono tracce di umidità. E allora ci venivano i vigili del fuoco, se io pigliavo a lavora con l'acqua che buttano, vabbè, i vigili del fuoco quando è così in cucina non usano acqua, le quattro che non se ne usa, invece è pericoloso, sono le prese di corrente eccetera, si usa la schiuma, quindi i vigili del fuoco negli appartamenti quando sono vicini agli appartamenti usano la schiuma, quando ce l'hanno, quando non ce l'hanno della tanedeva, che vuoi dire, vabbè. E comunque, guarda che ci sono quegli attacchi da Severa, Cugusi, ci mi serve un attacco rapido per lo scarico della lavatrice. Cioè, l'attacco rapido è tipo una ventosa, dove tu buchi il tubo che c'è dello scarico del bagno, lavandino, dove vuoi, buchi, glielo attacchi, e la pressione, attacchi il coso della lavatrice e scarica lì dentro. Ci sono, oramai ci sono tutte le cose, non c'è bisogno di sfasciare niente. Sono gli attacchi rapidi di scarico, i giunti, le tige, tutto. Ne usavamo tantissime noi, capito? Per scarichi i volanti, i polietilene, eccetera. Va bene raga, io vi saluto momentaneamente, vado a portarmi il cane, se ci siete, a dopo, altrimenti ritenetevi tutti salutati. Ciao Pinuccio, ciao a tutti, anche quelli che sono in ascolto. Il cambio per Pinuccio, se ti ascoltano, ma sicuramente sì, vai tu Pinuccio, io sto chiudendo momentaneamente a dopo. Tranquillo Pinuccio, dove sei domato, vai doppio root. Ciao Claudio, dai, ci sentiamo dopo, se magari non riaccendo. Una passeggiata, fammi sapere se c'è fretta. Sicuramente sì, già, te lo dico già io. Ciao a tutti, anch'io sto chiudendo, va, ci sentiamo alle prossime. Oh, Natali. Oh! Allora, di quelle che ti ho fatto vedere ne ho ordinate due, una con l'attacco SMA femmina, una con l'attacco SMA maschio, poi ne ho trovato una da 19 cm, sempre con la bobina, 19 cm è piccolo stesso, 2,50 euro, anzi 2,45 euro, un insulto alla povertà. Ma sai perché ne ho prese di diverso tipo? Perché magari una non risuona, e allora se non risuona uno un tipo risuonerà l'altro tipo, dai, proprio antenne diverse, capito? Così io mi tengo quella che risuona, se ti do quella che non risuona. Bastarda, vabbè, va, aspetta che saluta Claudio, dai, ti prendi Marco. Ehi, ciao Claudio, già credo che sarà ancora qua. modulo finché posso, perché poi non lo può vedere il baracchino, dice che stare a parlare al baracchino è una perdita di tempo, perché lì invece c'è la psicosi del lavoro, invece, ma proprio una malattia, deve lavorare tutto il giorno, se no si sente una nevrosi, è una nevrosi vera e propria. Eia, quello che non faccio io lo fa lei. Lavora per due. Vai Gianni. Ehi, ci sono qui, quindi ci fanno vedere anche Animax. E anche a Corso, come si chiama, in realtà. Quindi che fanno le pulizie, che io riordino anche le case degli altri. Ricordo l'altra che parola, ossessivo compulsivo, una cosa del genere. Esatto. È così, vabbè, comunque è una cosa da fare, non c'è niente da. Questa volta ho avuto tutti, canotti, roba vecchia, non mi interessa più niente. Solo le canne da pesca mi tengo, seppure. No, quelle me le tengo, dai, non si sa mai. Però canotti vecchi, inutilizzati da anni, mamma mia, qui è tutto al mutinaggio. Marco, non buttarti, ti ho detto, portami al pitucchio, perché al campione elettrici devi fare. No, già, sono canotti che hanno avuto o piccole riparazioni, oppure uno che era doppia camera, si è bucata la camera di, si è bucata l'intercapedine e è diventata una camera sola. No, e poi roba vecchia, roba che c'ho, un canotto ce l'ho da 90 addirittura, tutto accartocciato, via tutto al coso, al, come si chiama, all'autoparco. Ma se c'è qualcosa che tu farai, ti fai su, no? Non può farmi fare in due, ma la roba dove ce l'hai, in camera da letto? No, sono dei stanzini dove noi mettevamo roba in disuso, sono uno più grande e uno più piccolo. Un tipo di dispensa l'hai fatta diventare montinaccio. Eia, scatole, roba non usata, di tutto c'è. Questa volta facciamo fuori tutto però, vecchi vestiti, basta, vestiti che non usiamo da 20 anni, o da 10 anni, insomma, via tutto. Non voglio nemmeno guardare cosa c'è, si butta e boh. Poi comprando, quindi 1000 pantaloni, 1000 camicie, 1000 felpe, basta avere 2 camicie, 2 pantaloni, o almeno 3 pantaloni, 3 felpe, 3 magliette diverse, 3 camicie e 3 giubbotti se vogliamo essere pignoli. È inutile avere 10.000 euro, 10.000 di tutto, ne ho le scatole piene. Per il baracchino si e pure i baracchini mi butta. Scusa, la roba a vestire, mettila dentro una busta, scendi a Platamona e gliela porti alla tua ragazza, anche il canotto le puoi dare, capito? Canotto con il remi, così d'estate si fa un giro lì alla rotonda. No, se non può che se lo fa come lei. E speriamo che si buchi il canotto che affondi. Chi muochia subito, capito? Quanti si muocciano il canotto si va a marigata mari. Vabbè, sto andando a portare il cane. Ciao Luca, riprendi. Vabbè, Claudio. A portare a Filippo sto andando, vai. Sta portando Filippo. Comunque c'è molto meno freddo oggi. Ieri erano 9 gradi, oggi sono 12-13. Garantito, molto meno freddo. Poi la pioggia di ieri, un casino. Confermo, meno freddo. Chi c'è comunque? Ciao Marco, Claudio, poi Gianni, chi c'è Natalino? Franco? Ciao. Aspetta Claudio, non te ne andare. Ciao Franco. Aspetta che faccio una prova a Franco, un altro antenna per se mi senti. Sì, Allora fa una prova, ho cambiato antenna anche io oggi, ho fatto quella la Game Master, autocostruita con la canna da pesca. Quindi arrivi qua sul più del 30, prima del 30, dai. Grazie. Avanti. Ciao Fra. Salutore a tutti, ciao Marco, Luca e Gianni, mi sembra di aver sentito. Riprendi Gianni? Sì, dai, ciao Giulio, ciao Luca. Mi sentite a tutti i due, dai. Fai girare Franco, riprendi tu e poi fai girare tu, dai, che io devo chiamato il 2X e tra poco vado anche a portare il capo, vado a cucinare. Capo, anche qua sento profumo, già vado a mangiare, quindi tra un po' vi lascio anch'io, mi sta venendo un languino. Ciao Giulio, ben entrato, lei mi conferma se mi ascolti bene, io ti ascolto molto meglio, ho fatto il progetto della Game Master, quel progetto che mi hai mandato. Ok, sì, ti ascolto benissimo, non ci sono problemi, pulitissimo alla radio, segnale anche forte, molto bene, hai visto? Ci voleva abbastanza poco, ci voleva per risolvere un piccolo problema che prima era esistente, adesso non è più. Va benissimo Fra, riprendi? Sì, da parte tua il segnale qua è otto, la radio è molto chiara, ti sento abbastanza bene, dai. Conta che ancora è sul davanzale, l'antenna non è sul tetto, è ancora... però la punta ha visto esplodere dal tetto, perché è altissima, è quasi 7 metri. Ok, sì, quando la metterai sul tetto poi cambia dal giorno alla notte, no? Non ci sono problemi. Va benissimo Fra, hai visto, hai fatto in fretta, sei stato più veloce di Natalino, così 448 hai concluso la situazione, adesso devi metterla su, intanto non è così pesante da piazzare, e va bene Fra, molto bene, riprendi ancora e fai girare tu, vai. Dai capa, grazie ancora. Riprendi Luca? Sì, segnale 5, la radio 4, dai. Adesso ho sentito un bip, chi è entrato? È sempre Luca. Adesso sì, Santiago, neanche uno. La massa che te ne fai, Luca. Ciao Giulio. Ciao Marco. Luca, ti ho sentito per un istante, ti ho sentito, ma forse puoi aver spostato l'antennino. Per un attimo ti avevo sentito, basso, ma ti ho sentito. Vedi un po', ritrova la posizione migliore, da dove lasciarla per poter trasmettere. Ok, avanti Gianni. Purtroppo non è un piano di massa, Giulio, dai, non fa. C'è un piano di massa. Domani mattina, stamattina non ho avuto tempo, sono uscito a fare delle commissioni più importanti del baracchino. Domani mattina faccio quello che devo fare, dai, ma chiuso un tappo di baracchino, vediamo un po' se riesco a tararla, perché non è, secondo me non è poco tarata la stanzetta, vuole tararla allo stilo, vediamo, dai. E niente, riprendi Giulio. Ok Luca, ma ce ne sono gli cartelli stradali dalle tre parti, smontane uno anziché usare il tappo del baracchino, ti usi un cartello di divieto di sosta. Non va bene così Fra, ma è così che lo danno? La faccia a vedere cosa c'è, qualche cosa alla finestra ci sarà di ferro. No, non lo so. Vediamo se c'è ancora anche Gianni Capri. D'accordo, lei, scusatemi un attimo che devo fare una telefonata, dai. Se non rientro, se non dovessi rientrare, ritenetemi salutati, dai. Ok? Purtroppo da domani sarò in catene, quindi ci sentiremo fra 10 giorni, forse peggio anche. Vai Giulio. Ok, intanto saluto a Gianni Capri 2, che non l'avevo salutato, non sapevo che c'era anche lui in frequenza. Sì, va bene. Comunque, Fra, sta arrivando né più né meno con lo stesso segnale che mi sta arrivando Marco in questo momento, per cui va bene, dai. Sicché immaginati un po', quando metterà l'antenna sul tetto, allora il discorso sarà molto, ma molto meglio. Non ci sono dubbi. Va bene. E a stazionaria come stai? Hai controllato tutto per benino, sì? Non so se avete parlato in due. Sì, giù, tu hai cambiato da giorno a notte, perché io ti sentivo a malapena, adesso mi arrivi quasi Santiago Nove modulato. È leggermente lunga ancora, perché l'ho misurata, era qualche centimetro in più, l'ho lasciata per provarla. Adesso ho un po' di tempo, la taro. Ok, sì, va bene così. Un po' di pazienza, vedrai, quando sarà tarata per benino, proprio, poi la metti sul tetto e va... va a meraviglia, va benissimo. E col condensatore quando l'hai fatto? 9 cm l'hai fatto, quel pezzo piccolino, quello non andava cortocircuitato, già lo sapevi, sì? E lo stesso l'impedenza, quello andava cortocircuitato, quello lungo da 50, quant'è? 50, 60 cm, adesso io non ricordo le misure, quello va cortocircuitato, mentre l'altro non andava cortocircuitato, eh? Hai capito bene com'era il disegno, sì? Sì, no, avevo già quel disegno, l'avevo già visto su internet. L'ho fatta da 9 cm, quello non è in corto, invece lo tubo sotto è in corto, da 56 cm circa, dai. Sì, appunto, è quello che intendevo, sì, adesso io le misure così non me le ricordo, però diciamo che ce li ho, ce li ho segnati, non c'erano problemi. C'è per quello anche altri progettini uguali, sempre a livello di Game Master, vanno bene ugualmente, no, non ci sono problemi. Bene, bene, fra, sono contento così almeno ha migliorato la situazione per quanto riguarda la trasmissione soprattutto. Va bene, riprendi Gianni. Scusa un attimo, Franco, fa un passaggio. Franco, fa un passaggio. 1, 2, 3, prova. Anche tu sei sul più del più 30. Ma anche prima arrivavi bene qua. E mi sa l'unico che ho peggiorato è con Luca, con Marco mi ha detto che ho peggiorato. No, hai fatto di Marco pure. E poi lui mi ha dato un segnale più basso. Oh, non lo so, comunque da me arrivi più forte. Cioè, è più forte, anche prima di forte, dai. Comunque mi arrivi sul più del più 30. E noi siamo vicini, però quelli in lontananza, tipo Giulio, che io non lo sentivo, cioè non si muove da lago, mi sta arrivando quasi 9, quindi vabbè che l'antenna sporge un po' anche dal tetto, prima era 2,75, adesso è 7 metri. Sì, che mica forte l'ho usato, fra? È uno Shure. Dai, ma ce l'avevi già detto, esce bene, ma sì, esce bene, bene. Ma anche tu, guarda, ha un'ottima modulazione, complimenti davvero. Questo è un MBP4 modificato. Da qualche anno, forse 10, 15 anni fa. No, io guarda che ho sempre sentito con un buon segnale, con una buona radio, sempre. E vabbè, diciamo, l'antenna è buona, poi ce l'ho mandato qua a 5, poi come capo, un capo grosso, ma l'acchino è, diciamo, buono, dai, il microfono è modificato, alla fine non è che sia questo grande impianto, ma già si fa sentire, dai. No, io ancora il cavo non ho cambiato, ho messo uno spezzone quindi da 2-3 metri per fare questa prova di 58, poi se la metto sul tetto metterò il cavo nuovo, direttamente un cavo serio, dai. Vediamo un po', chi ci è rimasto? Non metto l'RG58 o come cavo di discesa, metti l'H155, almeno quello se non altro, per una questione di spuria, capisci? Per cui non ho, è meglio sempre, soprattutto se vicino ci passano fili di telefono o fili di TV, eccetera, in modo che non abbiano delle cose, come se delle spurie che vanno a finire poi all'interno di altre apparecchiature. Metti un cavo serio come discesa. Per l'antenna invece come cavo coassiale cosa ho usato? 58 ho usato? Capo, come c'era scritto lì ho usato 58 e poi le 213 per fare gli spezzoni. Sì, hai fatto benissimo, infatti è così che dovevo essere. È perfetto, così è perfetto. Sì, ma voglio dire, adesso quando la metti sul tetto, come cavo di discesa, metti un cavo sirio, almeno l'H155, perché è schermato e manda meno spurie, capisci? Perché sennò magari potresti avere delle conseguenze nelle cose, nelle altre ricezioni, tipo TV, eccetera. Ok, tanto non è che costa molto, l'H155 va benissimo, io addirittura ho l'H1000 qua, ti puoi immaginare, quello proprio grosso, però sempre una questione di schermatura, l'H1000 ad esempio è schermata al 100%, mentre l'H155 è schermata all'85%, però va bene lo stesso, Il vantaggio è che è flessibile come il 58, per cui è proprio malleabile, lo puoi lavorare come vuoi, mentre la camicia come quello che ho io è un po' rigido, per cui, ma una volta sistemato dietro rimane, non è che deve stare sempre col cavo in mano, capisci? Perciò va bene così. Vabbè, dai, scusate la mia lungaggine così, adesso passo il microfono a Gianni Capri 2. Avanti Gianni. Hey, a voi, ciao Gianni, non so se mi ascolti tu, io ti ascolto benissimo. Mi prendo io perché dopo lui era in QRX un attimino. Sì, sì Gianni, va bene, beh no, stavamo parlando di un'antenna autocostruita che ha fatto Franco, capisci? Cioè per l'antenna va bene l'RG58, ma come cavo di discesa le stavo consigliando l'H155 perché è una schermatura diversa, perché l'RF, il ritorno dell'RF passerebbe attraverso la calza, capisci, con un cavo diciamo scadente, mentre invece con un cavo, come sto dicendo io, H155 sarebbe ottimo, si evita qualsiasi interferenza. Va bene così. Anch'io sto uscendo con un dipolo in verticale, Gianni, con un choke alla base, appunto, e poi come 5 watt appena. Tra l'altro questa antenna che ho è molto bassa a livello di pavimento. Tu immaginati il pavimento di un appartamento piazzato in terrazzo con un tubo da un metro, ecco, da lì in poi, tra l'altro chiuso fra le quattro mura anche del terrazzo. Suppongo che tu mi senta bene. Il segnale non è che mi interessa più di tanto, però penso che tu anche il radio riesci a sentirmi ugualmente bene. Confermi Gianni e poi puoi girare tu. Sì, capo, grazie Gianni, oggi posso dire ben sentito per la prima volta, perché le altre volte facciamo sempre la ponte gli altri. Alla prossima allora. Avanti Luca. Ok, ciao Gianni, dai, buona cena, buon tutto, alle prossime, avanti Giulio. Ok, ciao Gianni, grazie a te della chiacchieratina, dai, ci sentiamo prossimamente, casomai, può darsi anche domani se coincide, alle prossime, ciao ciao. Natalì ci sei ancora o sei rimasto in ascolto solamente? Natalì non c'è, Gianni è in quel rischio, per cui ciao Luca, non so se dai chiudendo anche tu, forse ho capito male, riprendi Luca per un attimo. Sì, la mia 25 mi ha scritto su WhatsApp, adesso che ha fame. Io ho fame, dai, con questo passaggio io vi saluto, mi ha fatto piacere quei pochi minuti a fare due chiacchiere, alle prossime dai, riprendi tu Franco, ciao Giulio e ciao a tutti, ciao ciao. Rimetta che non è l'unica a avere fame, anche noi qua abbiamo un po' di famuccia, comunque alla prossima Luca, riprendi Giulio. Ok, ciao Luca, saluto anche a te, dai, buonanotte, buona cena quando la farai, ci sentiamo eventualmente domani se coincide. Bene, bene, bene. Marco, ci sei ancora? Un ascolto? Marco è impegnato nelle faccende domestiche, evidentemente. Va bene, dai. Va, se devi chiudere, chiudiamo, non se ne parla più, intanto sono già le 8 quasi, meno 10, dai. Intanto fanno molto, anche qua devo scendere anch'io per la cena. Stavo dicendo fra, comunque va bene, ripeto, quando metterai l'antenna sul tetto sarà ancora molto ma molto meglio la situazione, perché ripeto, mi arrivi Santiago 9 circa e praticamente i segnali si equivalgono, il mio col tuo, e tieni in considerazione anche che io ho l'antenna bassa, se io dovessi mettere l'antenna al suo posto originale, intanto sarebbe montate in alto almeno 5-6 metri in più da dove adesso, sicché ti puoi immaginare che razza di differenza ci sarebbe anche di segnale, oltre che di radio. Vabbè, la radio magari non subirebbe tante modifiche, però come segnale sarebbe molto ma molto più forte. Riprendi fra. Sì, sicuramente, se tutti e due dovessimo metterla sul tetto, ne giocheremo alla grande. Poi ti volevo chiedere una cosa, il 213 invece non è buono come cavo? Ottimo, è ottimo, Fra, è ottimo. Anzi, e non è nemmeno molto rigido, il 213 diciamo che è anche flessibile, più dell'H1000. No, era solamente per una questione di cosa, di rigidità che ti stavo dicendo, prendi l'H155, ma il 213 è ottimo, anzi ancora meglio, ancora meglio dell'H155, ci mancherebbe, certo, il cavo più grosso è, meglio è, però se è molto grosso poi dovrai intanto cambiare il PL, perché probabilmente se hai il PL con la ghiera, con la piccolina, dovrei cambiare, metterò quello da 10 mm anzi quello da 6-7 mm. Però stiamo. Se non vuoi avere troppi problemi di flessibilità, puoi utilizzare tranquillamente l'H155. Il fusaro ce l'ha, perché l'ultima volta che sono andato lì ho chiesto c'era, ce l'aveva, perché non è sempre che ce l'hanno qui, no? Però in questo periodo ce l'aveva, a meno che non se l'abbia venduto già tutto quanto, ma non credo. Chi è che compra il cavo in questo periodo? Non, nessuno di noi ha mai detto che era andato a comprare il cavo, per cui sicuramente qualcosa ancora ha. Sì, io nel 213 l'ho trovato da Fusaro, invece ho preso del cavo alla GBC 58 per l'antenna, ma non l'ho neanche utilizzato perché fa pena, la rame dentro non ce n'è, è della CTE, infatti non so se glielo restituito, non so se me l'accetta il reso. Ah, non credo, beh, se ce l'hai ormai, vabbè, piazzalo e non se ne parla più, vuol dire che dovrai fare delle prove per vedere se ti crea problemi, se no al limite puoi essere costretto a cambiarlo. Ripeto, quello che conta è molto il capo di discesa, perché tu sai benissimo, no? Sulle facciate, sui muri, eccetera, scendono gli altri fili, tipo telefono, tipo TV, eccetera, no? E se c'è un cavo che è schermato bene, non lo manda spurie, e allora non darebbe nessun fastidio a nessuno, mentre invece un cavo scadente potrebbe anche mandare delle spurie, e trattandosi di vicinanza tra altri cavi, e potrebbe esserci dei problemi, capito? Tutto lì, ma solo per quello che te l'ho detto, se no anche 58 va bene, premesso che un cavo migliore è sicuramente hai più possibilità di avere un segnale sempre più forte, ovvio, no? E il discorso era quello, frate, ti facevo, capisci? Sì, sì, quello sì. Anch'io avevo le RG8 quando modulavo in campagna lì a Villa Gorizia. Ho trovato anche qualche spezzone di quella roba lì, però no, qui ce ne vogliono di più, penso sui 25 metri di cavo. Quindi meglio usare un cavo buono, perché se no sarebbe troppa di dispersione. Sì, ok, sì, questo sì. No, ma anche l'RG8 come cavo è ultimo, solo che ormai non lo vedono più, so che non lo vedono più. Penso che non l'abbiano più trattato, almeno qui a Sassari non si trova più l'RG8. Qui si trova il 213 oppure l'H155 oppure l'H1000, come appunto quello che ho io. Ma l'H1000, ripeto, intanto ha un costo un pochino più alto e poi ha una certa rigidità. Ma tu mi dirai, ma la rigidità non mi interessa, perché una volta che è piazzato il BL rimane attaccato al baracchino e basta. Sì, va benissimo anche quello. Che allora ha una scrematura totale, tutto al 100%, non ti manda nessuna interferenza fuori dal cavo, capisci? Mentre invece il 213 ha 85%, a differenza dell'H1000 che ha il 100% di schermatura, e altrettanto l'H155 lo stesso, ha l'85% di schermatura. Poi se tu apri il computer, leggi i cavi coassiali e trovi tutte le informazioni che ti necessitano, che vuoi, capisci, Ofra? Il 213 invece quanto ha di schermatura? L'85%. Quindi è discreto anche quello, dai, sarebbe discreto anche quello. Vedo un po'. E comunque la GBC è molto più caro, perché il cavo mi ha fatto pagare, mi sembra, 1,20 il metro, invece il Fusaro ce l'aveva a 90 centesimi l'RG58, figurati. Ho preso una bella fregatura. Sì, lo so, ma la GBC, lo sai, tutte le cose costano di più di quelle che ha Fusaro. No, ma non. Io ci vado raramente lì da GBC, salvo che non sono proprio costretto, perché magari non l'ho trovato lì da Fusaro, ma Fusaro è tutto un altro discorso. Io di solito sono sempre andato da Fusaro. C'è più professionalità e soprattutto trovo meno mondezza. Tu mi dirai, ma la mondezza che c'è lì, il negozio non ti interessa. Sì, hai ragione, però io guardo anche quelle cose lì. Quando vedo il negozio tutto pieno di scatolame, in mezzo ai piedi, che non si può nemmeno passare, in un certo senso, un certo concetto me ne faccio, capito? Certo, sì, sì. No, comunque, hai ragione tu, non c'è paragone. Però poi io ci provo, là, se riesco a farmelo cambiare, male andando, prendo un altro cavo, gli dico che quello non va bene, se mi dà il cavo più grosso, per non perderci questi 12 euro. Lo so, purtroppo è così, vabbè. prova a tassarlo, cosa vuoi che dica? Poi al limite dovrai fare il lavoro, prova a tassarlo e a montarlo, può darsi anche che vada bene, non è escluso. Il discorso è quello, o fra. Prova, ormai ce l'hai e prova a utilizzarlo, se no al limite poi lo puoi cambiare, no? Ma ormai l'antenna l'ho fatta, quel cavo l'ho preso proprio per fare l'antenna nuova, diciamo, di sana pianta, ma poi una volta l'hanno sbucciato, visto che non c'era poco rame, avevo degli ispettori vecchi delle regie 58, ma con il doppio del rame, addirittura poi anche il colore è diverso, probabilmente lui quel rame arancione, invece quello il vecchio che io di quello, diciamo, colore argento. E qui ho utilizzato il vecchio cavo che mi sembrava più appropriato, dai. Ok, beh, è fatto bene, in effetti quello che è argentato diciamo che è migliore come cavo, anzi alle volte c'è anche la pellicola di carta stagna e dunque è ancora meglio, anche quella è un'altra schermatura, per cui è ancora migliore, così sì, hai fatto bene a utilizzare quello, però diciamo che il discorso antenna è riuscito, adesso sta solamente a collocarla su, sul tetto, trovati uno spazietto dove è, la piazzi, ti posso garantire niente di qua e niente di niente, proprio va bene, se è stata una meraviglia non ci sono problemi, per cui non avere paura, vai, sali su, fai il lavoro e vedrai hai risolto il problema, riprendi. Sì, già così è un ottimo risultato, anche il KP2 non lo sentivo e adesso mi arriva, non fortissimo, però intanto mi arriva. Ed è Muros, che è dall'altra parte, diciamo, della città, c'è tutto il monte di Sassari, diciamo, che si intrappone tra me e lui. E poi non ho messo il PL, ho messo gli attacchi con gli occhielli a bulloncino, capito, in acciaio. Ho capito cosa adesso quando lo metti su naturalmente isola i contatti con qualcosa di isolante in modo che quando piove magari non si bagna tutto lì, no, non ci sono problemi, anche la punta del filo lo stesso, quando prima di mettere l'antenna su anche quello copro bene, isolano bene anche quello con del nastro magari vulcanizzante eccetera. Dimmi una cosa, il ciocche come quante spine hai fatto? 16 come era nel progettino, sì? Ah, ne ho fatto una in più, perché il tubo non era da 66 ma era da 60 e spiccioli, quindi ho fatto questa prova e ne ho messo un giro in più. Ah, ok, ho capito, evidentemente ho utilizzato quel tubo colore rosa in PVC da 63 mm, confermi? E quello arancione, dai, una sezione, ho fatto prima un foro, ho fatto uscire il cavo, poi ho fatto tutti gli avvolgimenti, quando sono arrivato al 17° giro ho fatto un foro e l'ho rimandato dentro, quindi rimane, si ferma su se stesso, sul foro. Sì, va bene, sì, hai fatto bene a fare un giro in più magari, proprio per evitare che anziché c'è 66 mm, il ciocco di diametro l'hai fatto da 63, perché quello del tubulino è da 63 mm, comunque andava bene lo stesso anche come facendo le 16 ugualmente, non era quello il problema, capisci? Sarebbe andato bene lo stesso, però l'hai fatto è meglio, dai, così hai praticamente fatto esattamente la lunghezza del cavo per la quale doveva essere quello coassiale, capisci? Tutto lì. Pensate che tu hai rispettato tutte le altre misure e quello è importante. Però quando la metti su, isola tutto quanto, bene, con qualche materiale isolante, magari del nastro o di quello autoretringente, in modo che non passi mai l'umidità all'interno, perché sennò col tempo poi ti crea problemi di magari di stazionare eccetera, invece quando è tutto bello isolato è un'antenna eterna diventa, guarda. Poi questo, diciamo, è il primo prototipo che ho fatto, poi magari posso prepararmi una più seria magari nel frattempo e poi montarla come si deve, dai. Però per adesso sono abbastanza contento, c'è un po' di stazionarie sui canali bassi, quindi sicuramente vuole un po' accorciata, è un po' lunga, l'ho fatto anche il cavo in rame, l'ho fatto leggermente più lungo, l'ho piegato su se stesso, l'ho fatto scendere un po' più giù, e anche quello sicuramente vuole un po' accorciato, però le prove così, diciamo, per come è messa adesso, non sono veritiere, perché da una parte c'è il muro e poi addirittura c'è una staffa in ferro che è al centro dove è appoggiata proprio l'antenna, quindi influiscono tanto. La paratura vuole fatta in zona aperta, dai. Sì, certo, non ce deve essere metallo, non ce ne deve essere. Il metallo, l'unico metallo che ce deve essere è dal piede in giù, o quello, cioè il pezzetto, quei 30 cm, 40, quanto li utilizzerai per poter attaccare al palo. Ma tutto il resto, dal piede in su non ci deve essere nemmeno un millimetro di metallo. Dal piede in giù va benissimo, non ci sono problemi. Mentre invece dal piede in su può creare anche dei problemi, tipo stazionari eccetera, oltre al fatto che magari potrebbe anche ridurre la potenza di emissione di RF, capisci? Perciò, poi guardati bene, studiatelo bene il progettino, accendi il computer e te lo ripassi una, due volte, tre volte, fin quando non l'hai memorizzato bene, così quando fai il lavoro non avrai. Allora, se tu hai intenzione di rifare la nuova, utilizza direttamente anche per le ciocche, per la bobina, utilizza allora direttamente l'H155, perché è ancora meglio, capisci cosa intendo? Migliore il cavo e migliore sarà poi il risultato, no? Ma non vorrei poi che cambiassero i valori, perché magari c'è una resistenza diversa, magari tu dicendo una fesseria, No, non ci sono problemi, perché la velocità di trasmissione è sempre quella, cioè il discorso si basa anche sulla velocità di trasmissione dei cavi, no? La velocità di trasmissione del cavo del RG58 è 0,66, e lo stesso discorso vale anche per l'H155, e anche nel 213 è lo stesso, però il 213, se è troppo grosso, non va bene a fare la bobina, darebbe troppo fastidio, mentre invece, perché l'H155 è dello stesso spessore, uguale identico all'RG58, la velocità di trasmissione è uguale, per cui non ci sono problemi. Non lo sapevo, quindi non mi sono fidato, ho riportato alla lettera lo schema che c'era lì, l'ho fatta come nello schema. Poi volevo dire un'altra cosa, poi ero anche indeciso addirittura, cioè il BL per forza ci vuole, oppure dopo la bobina posso scendere e continuare col cavo intero. Tu dici di metterlo, sì, andrebbe bene ugualmente, certo, andrebbe bene ugualmente, però il discorso PL è una comodità, perché un domani devi scendere, non fai altro che svitare e hai solo l'antenna in mano, senza stare lì con tutto il cavo, eccetera. Sì, diciamo che in realtà andrebbe bene ugualmente, però diciamo che di solito si costruiscono sempre col PL da pannello, si costruiscono e poi la solita prolunga sempre da avvitare all'antenna e al baracchino, tutto lì, capisci? Era solo un'idea che mi era venuta, proprio per eliminare dispersioni e cose varie, perché il PL non è il massimo come connessione, dai. Infatti io adesso gli ho fatto quella con... ho messo dei bulloncini in acciaio e quindi dentro ho saldato due occhielli e altrettanto ho fatto la parte in fuori, quindi i bulloncini uscivano fuori e li ho fermati con altri due occhielli che vanno direttamente poi al PL dell'apparato, dai. Io avevo capito come hai fatto, sì, va bene lo stesso, cioè il funzionamento c'è sempre, no? Quello non ci sono dubbi, però diciamo facendo in un altro modo è più professionale il lavoro, viene, no? È un lavoro più perfetto, io sono per il PL, intanto non c'è questa grande, diciamo così, dispersione, assolutamente no, anzi forse il PL essendo isolato eccetera ha meno dispersione degli occhiali, così come hai messo tu, probabilmente sì, capisci fra? No, io pensavo che fosse un contatto superiore, stretto, diciamo, con i bulloncini, che il PL è una cosa che è uno spinotto che entra e esce, ha un minimo di attrito, invece quando tu lo stringi, le rondelle le stringi, pensavo ci fosse un contatto migliore. Sì, quello sì, però devi considerare che va bene, è un pezzettino da niente, sono solo due occhielli, per una questione di impedenza, perché magari i PL sono stati costruiti per avere quella impedenza, mentre invece gli occhiali, così come li vuoi chiamare, pazze, non penso che abbiano la stessa impedenza del PL. No, io farei sempre col PL, la verità, perché è un lavoro più pulito, più bello, più elegante e soprattutto più professionale. Però poi, ripeto, se a te ti va bene farlo così, funziona ugualmente, non ci sono dubbi. Il discorso sarebbe magari col tempo questi bussolotti che hai messo, questi occhiali eccetera, potrebbero anche arrugginirsi, ad esempio se non sono in acciaio inox, devono essere almeno quelli, perché se no col tempo, anche se li copri, quelli prima o poi si ossidano e allora ti creano problemi, mentre il PL no, il PL è ottone e i problemi non te ne crea. No, ho utilizzato tutto acciaio. Sì, beh, se hai messo tutto acciaio inossidabile, non normale, non acciaio normale, deve essere inossidabile. Va bene, non ci sono problemi. Comunque, se tu preferisci farla così, va bene, no, non c'è differenza. Il segnale, ripeto, è buono, è buonissimo, quando poi metterai sul tetto aumenterà di almeno 10 PS come minimo. Come minimo qui da me arriverai almeno a 9,10, 9,15, adesso si è a 9, per cui va bene così. Sì, anche tu qua sei 9, è spaccato adesso. Avevo problemi con l'amplificatore di potenza. Allora con Claudio abbiamo fatto un paio di spiri, un paio di giri lì alla base dell'antenna. Sembra che abbia migliorato, riesco a accordare a 1,2. E un cimetrizzatore gli ho fatto fare. Ciao, grazie. Ok, sì, beh certo, per evitare queste cose qua puoi fare 3-4 giri di coso, di cavo, anche sotto l'antenna va benissimo, non ci sono problemi, però magari farlo, che so io, con un diametro di almeno una decina di centimetri, per evitare, come stava dicendo Claudio, un simmetrizzatore, che quello ti evita un po' le stazionarie, in caso ce ne fossero. Però io prima la taglierei senza fare tutte queste cose qua, taglierei bene l'antenna, poi se fosse necessario o fare un altro shock sotto o lo farei, ecco, tutto lì, Sì, sì, infatti è una cosa che abbiamo fatto adesso provvisoriamente per testare l'amplificatore, capito? Sì, serve per il rientro dell'RF, quello serve per il rientro dell'RF, soprattutto per la dispersione delle spuglie, in modo che non vada a finire su altre apparecchiature, è tutto lì. Ciao qua, ci sei anche tu, ma poc'anzi non c'è in frequenza? Sì che c'ero, forse quando sei entrato tu sono andato a portare il cane, sto rientrando adesso, sì, ma infatti gli ho detto a Franco, adesso provvisoriamente falle o non si mette il trattore, largo quanto il fondo di una bottiglia, così, in modo che ti abbassi un po' le stazionarie, poi se la tari bene, senza si mettere il trattore, e vedi che risultati hai. Nel caso hai necessità di simmetrizzare appena appena, glielo fai il ciocco, capito? Sì. No, per adesso abbiamo risolto, momentaneamente, dai, per farci due chiacchiere, poi più in là daremo una sistemata. Sì, puoi utilizzare per fare l'eventuale secondo shock, puoi utilizzare un pezzo di tubo, quelli di fluviale, come si usano, che sono da 10, da 100, lo giri attorno a quello, lo giri e poi, sempre se è necessario, però ripeto, come ti ho detto prima, e come ti ha detto anche Claudio, prima farà bene l'antenna, dopodiché se è necessario puoi fare anche quello, per un eventuale appunto, o per un eventuale ancora residuo di dispersione, ok. Sì, però ripeto, non so se secondo me sarebbe meglio tararla in un punto, in un altro punto l'antenna, perché qua è soggetta a pezzi di ferro, su c'è lo stendino che tocca proprio l'antenna, cioè il ferro che dove io ho attaccato l'antenna, c'è anche quella di su, quindi essendo in asse, quando io ho sollevato l'antenna vado ad appoggiare proprio su quel ferro lì, anche se poi lo passa e va a finire fino alla base del tetto, però l'antenna è appoggiata lì. Sì, no, tu devi considerare questo, che quel tipo di antenna così, diciamo che manda il segnale, lo manda dal centro in su, lo manda. Per cui meno metallo c'è nelle circostanze, meglio è, cerca di evitare ogni tipo di metallo, appunto, ma tutto questo naturalmente quando sarà sul tetto non esisterà più questo problema, perché ripeto, l'interessante è che tu il pezzo dove attacchi al palo, quello solo deve essere, perché è giusto che sia rigido quello, sennò il vento te la spezza e te la butta giù, mentre invece dal piede sotto va bene il metallo, non ci sono problemi, prendi un pezzo di tubo d'alluminio e lo fissi al palo con i cavallutti eccetera, però durante tutta l'antenna dal piede in su non ci deve essere niente di metallo, e quello è importante, o anche, anche agli effetti delle spurie e soprattutto delle stazionarie, o Franco. No, no, sotto no, per quasi mezzo metro non c'è nulla, c'è tutto. L'unico ferro che c'è, insomma, lì non posso fare niente perché purtroppo quella di su c'ha lo tendino e come si chiama? Le apparecchio per tendere le staffe, e io ci passo proprio sopra, a fianco, là. Ho capito, sì, l'avevo capito quello, ma quando lo metterai sul tetto poi non ci sarà più quel problema, perciò va bene così, dai, già va bene. Una volta che lo metti sul tetto non avrai vicino all'antenna, non ci sarà più metallo di nessun genere. Va bene, dai, io ti saluto, eventualmente ne parliamo anche domani se coincide che ci sentiamo. Ciao Franco, comunque hai fatto un buon lavoro, per il momento hai risolto un problema. Ciao Claudio, salutoni, ci sentiamo domani, dai. Buonanotte a tutti e due, ascolta fino a lì e poi chiudo. Riprendi Claudio. Via, d'accordo, ciao Giù. Grazie alle due chiacchiere, dai, oggi si è entrato un po' tardi, noi siamo un po' assieme in radio, io mi sono allontanato un po' a portare il cane, ma sono entrato adesso, si sta bene fuori, freddo non ce n'è, vento non ce n'è, molto meglio di ieri che era una tempesta, non si budia, ciao alle prossime, dai, a domani, e prendi fra. Ciao, sì, ciao Giulio, ben ascoltato come sempre, grazie ancora per i consigli. E alla prossima, no, figurati Clark, Giulio lo ascoltavo a malapena, proprio con l'orecchio incollato alla cassa, adesso mi sta arrivando a Santiago 9. Ma se ti sentivo a Capri 2 a Muro, io cosa ti ho detto? Cosa ti ho detto? Che se fai un'antenna come Cristiani, anche autocostruita, riesci 695 qua, 9 più 5 di Santiago 8, 9,5 quando attacchi 6,9,15. Fatti un buon, arrivi anche a Muro, se Valerio, perché c'ha sempre QRM, se non magari ti sentivo anche ad Alghero. Però hai migliorato tantissimo fra la grande. Quindi adesso che c'è poco QRM, magari c'è la pompa spenta, staccata, dai. Si poteva provare se riusciva a sentirlo a Valerio. Perché qualcosa sentivo sul fondo, però era troppo alto, il QRM era 5,6, buh. Non so se Valerio a quest'ora, Valerio. No, Valerio a quest'ora. Con i piedi sotto al tavolo. Tu sei 9,20 adesso, Cosa stai usando? Io sono 9,20 con 4,40, ma sto usando 10 watt. Allora, T230, siamo in scala 200. Esatto, scala 10, scala a 20. 10 watt di portante e 30 modulati. Capite? Guarda, te lo porto a 50 watt. 50 watt. Sì, quasi all'inizio del più. Quindi lo vedi che la ricezione ce l'hai adesso che l'antenna sorda. Aspetta. Ecco qua. L'ho rimesso a 10 watt, aspetta. Ecco qua, 10 watt, giusti, giusti. Non faccio una sensazione, ma mi sembra anche più forte la modulazione così, quando usi questi watt. Beh, comprime di meno sicuramente, io 4,40 quando me l'hanno riparato, non lo sto sfruttando al massimo, la verità, ce l'ho sempre a 10-15 watt, non di più, mentre 4,30 già lo tiro un po', anche a 30-40 watt. Questo lascio sempre così, tanto per fare due chiacchiere è più che sufficiente. No, no, va benissimo, capito. Ultima stazione. Tu hai aumentato un bel. Ma No, sono contento, dai. Un po', ripeto, vuole un po' tarata, però come primo esperimento non sono andato male, dai. Beh, va bene, sì. Ottimo per la truppa. Ho seguito lo schema, si poteva fare meglio perché qualche errore l'ho fatto in costruzione. E poi il saldatore, secondo me ci voleva un saldatore più un pochettino più forte, più potente, perché a volte le saldature grosse faticava a fonderlo, si impastava. Secondo me era tutto un problema di antenna, Frano, però te l'avevo già detto, è impossibile ricevere quei segnali così bassi. È impossibile, vedi, adesso corrisponde, tu mi stai arrivando che hai meno potenza 9,5, io sono 9,10 e c'ho, vabbè, sono 10 watt lo stesso anch'io, però più o meno è così, quando sollevo il segnale solleva, prima era sempre bascio bascio. Poi, allora, ripeto, io questo smite l'ho tarato così, poi per farlo come si deve o si porta in una stazione dove mai tu conosci i segnali, lo fai uguale al tuo e si potrebbe tarare meglio così. Bisogna che lo facciamo, bisogna portarlo qua, tararlo magari col segnale di Marco, come avevo tarato una radio io. Marco c'ha il segnale stabilissimo qua, la potenza è sempre quella, quindi capito, ed era perfetto, poi alla fine risultava uguale a quello che io ricevo qua col 440, capito? Quindi poi non è detto che mai tarando il segnale di Marco che poi che sia fedele, perché magari poi uno basso mi arriverà diversamente da te, non è uno smitter professionale questo. E io ho fatto la salucci a futtidini, fai a te, non è quello il problema, adesso l'importante è che hai migliorato e che hai più ricezione, più trasmissione, poi si vedrà. Guarda, Giulio è un oggettivo impressionante come quanto è aumentato Giulio, forse perché l'antenna riesce a scollinare appena appena, cioè anche se la falda bassa del tetto, poi c'è la parte più alta che impala la zona dei punti, diciamo, però qualcosa la prende. Sì, ma infatti ho detto, se anche in quella, la lasci in quella posizione senza metterla sul tetto, e però riesci a metterle un tubo più lungo da farla uscire dalla mantovana almeno un metro e mezzo, tu vedrai i risultati che hai ancora più alti. Che come fai? Viene un bel male, viene. Viene un bel male, perché l'ho attaccata a una staffa del, come si chiama, per stendere, non è un ancoraggio robusto, meno male che la canna è leggera, se dovessi mettergli un palo già andrebbe a forza. Tra l'altro questa cosa gli ho messo, praticamente gli ho attaccato con una specie di portaombrellone, portaombrello di quelli in ferro, però quegli ombrelloni che usano nei bar, da. Che sopra c'è il piattello in ferro, gli ho fatto quattro furi, gli ho messo due cravattine e l'ho stretta così, e poi ci ho infilato l'antenna direttamente la canna, proprio la base della canna, dentro il portaombrellone, e adesso è appoggiata così e basta. Ma è in ferro quel portaombrellone, non va bene, ecco dove sono le stazionarie, non va bene, deve essere in plastica, non va bene in ferro, un tubo in polietilene ci vuole. No, ma l'antenna inizia un metro più su, siccome la canna è lunga, quindi ho lasciato libero un metro di canna e poi l'antenna parte da un metro più in alto, quindi entra solo il tubo, l'antenna parte su. Okay, il tubo di che cosa? Sempre di canna oppure un altro pezzo di tubo che gli hai attaccato? No, proprio diciamo il manico della canna, il primo metro l'ho lasciato libero e poi diciamo la bobina parte a un metro più su e da lì parte si sviluppa l'antenna per 7 metri. Però quando io inserisco la canna, l'antenna diciamo di BL rimane un metro più su dell'incastro del ferro, mi sono spiegato? Sì, si è spiegato perfettamente, ma non vorrei che quel pezzo di ferro stia influendo sul piano di massa dell'antenna. Era meglio metterglielo di plastica e rifare la prova, capito? Perché può essere anche quello che ti sta causando le stazionarie, comunque. Perché se col simmetrizzatore si sono abbassate, non deve far vedere sotto, nel piano di massa di sotto, capito? No, perché questa antenna lavora senza massa, non deve essere a contatto con il ferro, quindi non è a contatto col ferro, perché l'antenna è in resina, quindi non c'è nessun problema. C'è scritto di fare così, di non metterci ferro al di sotto del PL, diciamo, dell'attacco, e non ce n'è ferro. L'unico ferro che becco su, a metà antenna, proprio dove è l'aria. Vabbè, ma se va così, che ho vista fatta e magari in un tubo di polietilene, come piantone, non il ferro, capito? Tutto lì. Vabbè. Vecchiaia Carogna, ma intendi un sonno, bravo. Non ho riposato niente, mi ha rotto la scatola di un collega alle 1:30, se potevo accompagnare a ritirare la moto da Romolo Vettao. Ha detto non hai altura, ma detto no, che alle 1:30 perché lui alle 3:30 devo essere a casa e vabbè, già posso prenderti. Mi sono entrato fino alle 4, da quell'ora lì praticamente non mi scorico più, non mi sdraio più, e quindi mi prende la biocco. No. Porca miseria, no vabbè. Comunque va bene, l'antenna va benissimo, adesso devi cercare di fare quel lavoro che ti ha detto Giulio e provarla senza simmetrizzatore. Vedi se le stazionali riesci a correggerli e le senza simmetrizzatore. A quel punto lì non gliene fai di ciò, non lo lasci stare senza niente. Se nel caso vedi che non scendono più di 1,4, 1,5 eccetera eccetera, allora glielo fai due girettini di ciò, capito? Quanto il fondo di una bottiglia, così. Lo fascetti bene e poi fai scendere il cavo. E vedrai che tu puoi accordare alla grande. Sì, già così sono arrivato a 1,2, che è un ottimo risultato, dai, 1,2 è tranquillo, con la scarpetta attaccata. Sì, 1,2 non sono stazionali. Assolutamente, va più che bene. Stazionali iniziano a essere da 1,5 in poi, 1,4, 1,5. Così è proprio un residuo minimo che non influisce neanche sul finale della radio, puoi trasmettere tranquillamente anche facendo passaggi lunghi, no? Non lo fa niente. No, la radio è fredda, l'unica cosa che sta scaldando un po' il trasformatore, il 10 ampere. Sono proprio 40 ghiacciato, scalda solo dietro il finale, basta, però come si attacca la frente, la vedo i tocchi ed è freddo. No, non funziona bene, e va bene. Gappa. Questo c'è anche il dissipatore dietro l'apparecchio, dai. C'è un dissipatore in alluminio, quindi toccando è appena tiepido dell'apparato. Sì, vabbè. Tutte le radio devono dissipare, si sono fatte apposta i dissipatori. Anche il 440 c'è il dissipatore, nonostante abbia il vento, eppure tu lo tocchi, è leggermente normale, poi con l'avvento lo raffredda, però devi dissipare la radio, se no chi li ha inventati, cosa li ha inventati, riuscire a vambera, per forza. Mentre tu vedi il 1131, perché è tutto coperto, che è forato, perché non ha dissipatore, a quel punto li scalderebbe troppo. Tutti quei fori che ci sono sul 1131, sul tappo, è lineare, e funziona da dissipatore. Sì, creano un ricambio d'aria, che l'aria calda tende ad andare in alto e quindi di conseguenza entra quella fresca là sotto. E si conferma, che molti le mettono al vento, la gagano in tutto, ma perché le mettono al vento? Non serve a niente, quello è stato progettato per essere così, tutto forato lateralmente e sopra, vuol dire che deve funzionare così, e ma scalda, per forza deve scaldare, sta dissipando una valvola, quindi, però non ci sono problemi, non fa assolutamente niente, quello è il dissipatore, il coperchio, una volta che il coperchio è tutto forato nei lati e sopra, vuol dire che deve funzionare così. Mi ricordo quando ci avevamo la ritocca, perché ci deve essere ancora in campagna, siamo a cambiare le valvole forse, se non ce l'ha buttato mio padre, che era un barrasone, sopra ci potevi cucinare la carne di cavallo. Aggiungo, ci aveva avuto anch'io, ci aveva la ventola dietro. Sai che non mi ricordo la ventola? Bisogna vedere che Giungo ci avevi, ne avevano fatto due. Ne avevano fatto, io avevo la ventola nera, quello grande, Giungo Aristocrat, e ci aveva la ventola, come no, dietro ci aveva la ventola. grande, mentre l'altro che ci avevo, la ventola ce l'aveva dentro, proprio a fianco alla valvola c'aveva il sistema della ventola, raffreddava proprio all'interno, capito? Fuori non ne aveva. Ma non lo ricordo, no? Mi ricordo che c'era un tratto per il guadagno dell'antenna, che non è una cavolata, non so se ti ricordi. Sì, c'aveva tipo un preamplificatore, ma non serviva assolutamente a niente. Ma aumenta la sua QRM, boh. Sì, come C80 che c'ha il preamplificatore d'antenna, sì. Aumenta lo segnale e ti porta tutto il QRM dentro. Le preamplificatori d'antenna sono quelli HF, che non aumentano il QRM, ma aumentano solo la voce del segnale. Secondo me, quello che ho io, poi penso anche gli altri, ma il C80 è preamplificatore d'antenna. Un motore in garage è il preamplificatore d'antenna. Qua c'è l'ANL, quando lo inserisco un po' ti schiaccia un po' la modulazione, è normale, te la abbassa un po'. Sì, quello è un filtro per tipo della tonalità, un filtro antirumore che chiaramente ti strozza anche un po' la modulazione. E tutti i barattini ce l'hanno, ce l'ha anche il Galaxy, e così lo stesso. Sì, di poco, però un po' la comprime un po' la modulazione. Infatti lo uso quasi sempre, a meno che siano scariche delle pompe di calore, lo uso sempre aperto, se no lo chiudo che un po' me l'elimina. Ma certo, si può fare. Oh, dai, io vado a mangiare qualcosa, dai. Un abbraccio a tutti in casa e grazie ancora per tutte le per tutto l'amore che mi hai dato, dai. Io ti fa. Detto, quando la vuoi mettere su e puoi organizzare meglio, lo facciamo, adesso usala così e poi si vedrà. Tanto il risultato l'hai già ottenuto solo con si mette il cattore, quindi ce va bene così. Ciao Fra, dopo cambia sia Anna che l'aria, dai. Un saluto a Carlo e a Anna e già ci sentiamo, ci aggiorniamo, ok? Buona cena. Grazie anche a voi. Ciao. Ciao Fra.